è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Lasciate i bassi fondi, senza una meta voi passeggiate e sotto ad un lampio, quando la ronda non incontrate, cantate la canzone. Noi siamo delle lucciole. Caro Parenzo, è tutto finito, tutto finito, è ormai tutto finito. Che è successo? Beh, ti faccio sentire quello che il nostro carissimo amico Vittorio Sgarbi ha detto questa mattina in una trasmissione televisiva che si chiama Agora. Sostiene Vittorio di essere stato insieme a Rubi, naturalmente una provocazione, o forse no, più tardi glielo chiederemo, di essere stato, cioè, fisicamente, carnalmente con Rubi Rubacuori, e dunque dice, usando il suo solito linguaggio, fatto anche di paradossi, di eccessi, di provocazioni, che siccome lui è stato con Rubi Rubacuori, sì, allora dovrebbe essere indagato come Berlusconi. Sentiamo Vittorione. Sei stato con Rubi, voglio essere processato. Voglio essere processato. Sei stato con Rubi a pagamento. La sfera sessuale è privata. Io vi dico che conosco altre 8 persone che sono state con Rubi. Ma tu sei stato, voglio essere processato. Sei stato con Rubi. Perdonami Sgarbi, sei stato con Rubi a pagamento quando era minorenne? No, no, perché Rubi non c'è una prostituta. Non è una prostituta. Voi siete i fiori del mare. Se il vostro cuore vuole piangere, voi pur dovete ridere. Hai capito? Tutto provocazia, provocazia. Sicuro, provocazia e disinformazia anche. Perché no? Disinformazia addirittura, perché dici? Beh, un po' di disinformazia, perché voglio dire, che c'entra, cioè si sposta sempre il tema su un'altra questione, no? Come se andare con le prostitute fosse il reato, ma non è questo che stanno contestando al nostro faraone. Ridaglia questo faraone, sei fissato con questi con questa terminologia assurda. No, perché voglio parlare, evocare questa assurda l'Egitto, terminologia. Voglio evocare l'Egitto di Mubarak, capito? A proposito dell'Egitto di Mubarak, sentiamo, sì, un po' di cose di Bocchino, va, sigla di Bocchino, via. Sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Berlusconi ha serragliato come Ben Ali e Mubarak. So che Berlusconi sta serragliato a Palazzo Chigi, ma anche Ben Ali ha cercato di stare serragliato, anche Mubarak insiste per restare al suo posto. Poi alla fine gli eventi in politica sono chiari, cioè è finito un ciclo, bisogna prenderne atto. E poi la Minetti è una che pulisce i denti, non uno scienziato. Togliendo dei dirigenti meritevoli di quello che allora era il mio partito dal listino bloccato, l'ha fatto diventare a 25 anni consigliere regionale, dicendo che era uno scienziato, fa la pulizia dei denti, cioè voglio dire, insomma, perché poi quando dice adesso Minetti non c'è, come dire, per laureata eccetera, cioè una signora che fa la pulizia dei denti nello studio del dentista. Lo stipendio di consigliere regionale per 5 anni è pari a 800.000 euro netti di soldi pubblici, cioè i contribuenti, noi cittadini italiani paghiamo la Minetti 5 anni 800.000 euro per organizzare le scene di Berlusconi e tutto il resto che la Minetti ha detto e che emerge nell'interrogazione. Sempre pungente, Bocchino, caro Parenzo. 800.000 euro paghiamo, 800.000 euro. Vabbè, ma paghiamo 800.000 euro anche per altri, non solo, certo, non anche solo per la Minetti. Il massaggiatore del Milan. Pulire i denti e organizzare le scene di Berlusconi, secondo Bocchino, i compiti della Minetti sarebbero unicamente questi. Bersani ieri sera, credo, ieri sera su Ballarò. Ballarò, sì, sì, non so che era Ballarò, ma andiamolo, va, via. C'è un'indagine seria che mi auguro venga condotta seriamente, ma al di là di questo non c'è bisogno della magistratura, è spiattellata la situazione e, no, e anche questo modo di difendersi che tratta gli italiani da imbecilli, io non ci sto, non ci sto, stiamo ancora aspettando la fidanzata, stiamo ancora aspettando la fidanzata. Mi viene a raccontare che sono cene e guardano i film, ma chi può credere a una cosa così? Bene, bene, 800-24-0024, questa è la Zanzara, abbiamo iniziato in questo modo, ma c'è tanta altra roba. Primo ospite però una collega, una nostra collega giornalista che lavora al giornale, che è al centro di una questione molto seria, molto importante, come una perquisizione. Perquisizione perché cercavano dei documenti, quelli che secondo i magistrati di Roma un consigliere del CSM avrebbe sottratto e poi consegnato al giornale, sottratto, fatto delle fotocopie, e queste fotocopie sarebbero arrivate al giornale. Per questo motivo dei carabinieri si sono presentati a casa di Anna Maria Greco. Buonasera. Buonasera. Come sta? Insomma, cerco di riprendermi dall'esperienza di ieri. Quando è accaduto tutto ciò? Ieri mattina, sì, poco prima delle 9, sono arrivati 5 carabinieri a casa. Quattro uomini e una donna, giusto? Sì, esattamente. Cosa cercavano? Le hanno detto subito cosa cercavano oppure no? Sì, sì, mi hanno fatto vedere il decreto di perquisizione della PM, della Procura di Roma, che disponeva la perquisizione sia locale che a casa mia, che nella redazione, che personale, sì, per, alla ricerca di questi atti del CSM sul processo disciplinare che era stato fatto alla Boccassini negli anni Ottanta e che io ho pubblicato sul giornale. Senta, questa perquisizione come è avvenuta? Perché abbiamo letto tante cose, anche la sua versione pubblicata sia ieri sul giornale che oggi sulla versione web dello stesso giornale, cioè è avvenuta in modalità, perché la Procura di Roma ha detto che è stato tutto regolare, che si è svolto tutto secondo le regole e soprattutto con, com'è l'espressione esatta, adesso io la trovo dalle agenzie, con rispetto, esatto, rispettando la dignità e il pudore. Il pudore, beh, questo forse bisogna vedere da che punto di vista. Io non so quali sono le regole della Procura, se le regole della Procura prevedono che una giornalista venga fatta spogliare davanti alla donna carabiniere per vedere se nasconde qualcosa nella biancheria intima, cioè, mi sembra quantomeno un provvedimento abnorme. Il PM aveva disposto questo, naturalmente non è che i carabinieri l'abbiano fatto di loro iniziativa, quindi il PM disponeva, oltre alla perquisizione della casa e della redazione, anche la perquisizione personale. Quindi, lei si è spogliata diciamo totalmente? Sì, mi hanno obbligato a togliere anche la biancheria. Ma tutto questo spero in una stanza e davanti, donna. Sì, al carabiniere donna. Beh, sì, solamente quella che è, certo, e certamente solo con lei. E quando le hanno... Io sì. Non ho mai detto che mi abbiano toccato, questo, cioè la procura precisa, non c'è stato nessun contatto, io infatti non ho mai parlato di contatto, insomma ci mancherebbe altro. Chi è che ha messo dei guanti? Lei a un certo punto ha detto hanno messo dei guanti di... Infatti sì, io pure mi sono chiesta perché l'abbia fatto, ma poi mi... Sempre il carabiniere donna? Sì, il carabiniere donna. Ha indossato dei guanti di cosa? Di lattice. Sì. E poi non sono stati necessari perché appunto fortunatamente non mi ha nemmeno sfiorato, però mi dicevano che si fa per prassi, perché magari può essere necessario scostare semplicemente i capelli, insomma sì. Non so, comunque certo non è stato un momento piacevole. No, ma su questo non c'è dubbio, però lei dice a una giornalista, in realtà la perquisizione potrebbe avvenire a qualsiasi nei confronti di qualsiasi cittadino, le regole delle perquisizioni non cambiano se uno è giornalista, no, oppure certo, dipende pure da che cosa si è accusati anche di aver fatto, insomma, di che reati. Questi sono tipi di perquisizioni che mi risulta vengono fatti per reati molto gravi, insomma. Tipo quando si cercano delle dosi di droga o cose di questo tipo? Sì, appunto, francamente non ho mai sentito da colleghi che sia stato fatto un tipo di perquisizione di questo genere, e me lo confermano anche all'ordine dei giornalisti, lo dicono oggi addirittura l'Unione dei Penalisti, parla di uno spiegamento di mezzi sproporzionato, quindi insomma c'è qualcosa forse di più di quello che era necessario. E, senta, quando le hanno chiesto di spogliarsi, la sua reazione qual è stata? Ma io veramente ero talmente confusa in quel momento che non capivo nemmeno bene che cosa volessero, insomma, quindi pensavo che volessero semplicemente così vedere, che fosse una prassi per vedere se avevo qualcosa sotto ai vestiti, insomma, non pensavo mai francamente che si andasse oltre. Poi ho cercato solo di dire, ma è proprio necessario addirittura, insomma, però mi hanno detto questa donna carabiniere, per carità, gentilissima, non è che lei abbia fatto nulla di più, insomma. Cioè, cercavano questi documenti, in realtà cercavano a casa sua e pure addosso a lei questi famosi documenti del CSM. Cercavano, questi atti di questo processo disciplinare. Certo che pensare che uno la mattina ce li possa avere addosso è abbastanza bizzarro, su questo non c'è dubbio, però... Però forse cercavano la famosa... non è che uno ha il documento, no? Il cartaceo, può avere una pennetta, una pendrive, no? Queste, queste moderne tecnologie lo permettono. No, ma permetto che io do la solidarietà alla collega che ha subito questa perquisizione. E quindi è ovvio, è sempre brutto quando comunque un giornalista che pubblica, per me è una non notizia, ma insomma comunque una cosa nella libertà di stampa è sempre brutto. Allora? Però non siamo di fronte alla polizia del generale Pinochet, cioè voglio dire, qui sembra che, come dire, siano stati usati mezzi violenti e quant'altro. Oggi il giornale tra l'altro spogliata la nostra cronista. Però è giusto ricordare che uno stato di diritto, cioè la polizia che agisce su un mandato, quindi cioè, voglio dire, non è Pinochet che l'ha ordinata, ecco, non è che la polizia cilena. Ecco, come risponde lei a questa osservazione che ha una sua fondatezza? Cioè c'è una perquisizione, tutte le perquisizioni sono invasive, per definizione? No, tutte per niente, rispondo proprio per niente. Non ho capito bene chi faceva questa obiezione. Parenzo, David Parenzo, che è il mio cara collega, roommate, come dire. Ah, ecco, non so se tu sei un collega, ma sì, non sappiamo quello che stai dicendo, sai, perché da ieri che non ricevo altro che telefonate di colleghi di tutti i tipi e di tutte le testate che mi dicono che non gli è mai successa una cosa del genere. Infatti, pensa un po'. Ti ho detto solidarietà alla collega, ma che quindi ha non c'è bisogno di arrivare alla polizia di Pinochet, capisci? No, ma voglio dire, siamo già vicini. Siamo già vicini a Pinochet, lei dice. Beh, sicuramente non mi dire che è una cosa normale. No, io almeno tutti che è normale. Che mi hanno chiamato, mi hanno detto che sono stati semmai sottoposti a perquisizioni, ma mai a perquisizioni personali. Non ho detto che è normale. No, un attimo solo, Davide, però l'osservazione è questa, cioè tutte, al di là del fatto che sia successo prima o no, questo, insomma, secondo me anche questo è rilevante, però lei stessa mi dice che non c'è stata violenza. Certo, trovarsi nudi e essere spogliati non è mai bello, ma insomma... No, ma soprattutto è inutile, umiliante e intimidatorio, cioè qual è il motivo per cui uno dispone una cosa del genere? Era ovvio che io non avevo niente addosso. Che ne sanno proprio, quelli? Ma come che ne sanno? Ma non diciamo sciocchezze, una giornalista si mette la pennetta dentro, ma poi voglio dire, ti posso assicurare che anche dalle modalità della perquisizione, se avessi voluto nascondere una pennetta, stai tranquillo che avevo mille altri modi per farlo, non avevo certo bisogno di mettermeli nel reggiseno, quindi è semplicemente un gesto intimidatorio. Cioè la procura, il magistrato voleva intimidire, la voleva intimidire per che cosa? Cioè chi ha ordinato quella perquisizione voleva intimidire la giornalista del giornale, cioè lei, Anna Maria Greco, per quali motivi? Ma me o tanti altri come il giornale, me, insomma, il giornale, perché? Beh, comunque sicuramente dava fastidio quello che noi abbiamo fatto pubblicando questi atti, e quindi era in qualche modo un tentativo di far capire che si va incontro a certe cose se si violano appunto, cioè, le regole. Ho capito. C'è il traffico, torno subito 800 24 00 24, a tra poco. Quando più fitta l'oscurità, Eccoci qui, caro Parenzo, 18:49, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara e siamo in questa prima parte, all'inizio di questa cavalcata fino alle 21, con Anna Maria Greco del Giornale, che ha subito questa perquisizione l'altro giorno. Oggi ne ha scritto, credo, sempre sul Giornale: sono stata umiliata per il mio lavoro. Qual è stata l'umiliazione? Lei dice addirittura che la polizia, cioè i carabinieri in questo caso, si sono comportati quasi come la polizia di Pinochet, insomma, non è un po' esagerato? No, non trovo per niente che sia esagerato, anzi trovo che non ho affatto calcato gli accenti, avrei potuto farlo molto di più. Infatti ho detto, ho scritto e ripeto che i carabinieri sono stati gentilissimi, misurati e tutto, quindi figuriamoci se parlo di polizia di Pinochet, come dicevano lì nel tuo studio. Non è affatto questo il problema semmai è una PM che dispone una perquisizione del genere, aggiungendo un qualcosa che sembra del tutto superfluo, come appunto la perquisizione personale. Questo non mi pare affatto che sia così. Cioè era superfluo, la perquisizione personale era superflua, questo è il punto, non serviva a niente per l'obiettivo che era quello di scoprire se c'erano i documenti, evidentemente. No, era un altro l'obiettivo. Sì, appunto, evidentemente aveva altri obiettivi, come mi confermano appunto dall'Ordine dei Giornalisti, come mi confermano un po' da tutte le associazioni, dicendomi che non si ricordano precedenti del genere. Senta, su Repubblica oggi, per carità, non voglio fare il magistrato, però su Repubblica di oggi leggo che in quei giorni nei quali Brigandì, il consigliere laico del CSM che avrebbe preso questi documenti eccetera eccetera, quello che abbiamo detto prima, in quei giorni lei aveva un appuntamento preso con lui, è così? Questo è semplicemente ridicolo, è falso e facilmente accertabile che sia falso, perché non è appunto... Cioè lei non l'ha mai incontrato? No, assolutamente, proprio non, assolutamente no, e quindi mi devo solamente sottolineare che su un tema così fondamentale come la tutela della riservatezza delle fonti giornalistiche, no, perché infatti tra giornalisti appunto ci si fa la guerra in questo modo. Chi è che sta? Ah, dice su Repubblica, dice per questa cosa di Repubblica. Sì, perché non è il primo articolo che vedo su Repubblica, è uscito esattamente il giorno dopo il mio articolo sul Giornale, un altro che subito ha indicato la mia presunta fonte e da quello è poi partito tutto. Comunque lei dice non ho mai incontrato Brigandì in quei giorni là. No, io l'ho incontrato forse una volta nella mia vita, ma sicuramente non l'ho incontrato in concomitanza recentemente, mai, e sicuramente non in concomitanza a questa vicenda. No, ma i temi della questione però sono un po' diversi, mi pare di capire. Cosa? La procura sì, vuole capire se Brigandì ha commesso abuso d'ufficio consegnando dei documenti. Dunque? Questo è il primo punto. Dunque? Dunque dispone delle indagini e fa delle perquisizioni, sì, e voleva capire la procura come la collega è entrata in possesso di questo documento coperto da segreto. Questa è la ragione. Eh beh, diciamo, questo lo sappiamo, però è importante ricordarla, perché sennò sembra che improvvisamente la procura, come dire, dice la versione di Anna Maria Greco è un'altra, che la perquisizione personale non fosse necessaria e che è stata disposta, mi corregga se sbaglio, è stata disposta allo scopo di intimidire la giornalista, perché sono stati pubblicati dei documenti scomodi sul Giornale. Questo mi sembra il punto. Ma il riferimento che lei ha fatto prima a Pinochet, qual era il riferimento che mi ha fatto prima? Cioè le è parsa un'operazione non per il comportamento dei carabinieri, ma un'operazione da polizia di Pinochet, in questo senso? No, lo dicevano da lei, tutt'altro. No. Non possiamo descrivere quella situazione che tu hai descritto nel pezzo di oggi come se fossimo di fronte a una polizia del generale. Invece no, siamo quasi a Pinochet, hai detto. Quindi io ho detto, ma mi sembra un po' strano, perché voglio dire, l'articolo 21 qui è garantito, l'articolo è uscito, se ne può continuare a discutere di questa notizia del 1982, secondo me di interesse quanto le guerre puniche, ma non siamo di fronte al regime di Pinochet, questo volevo dire. Ecco. Capito? Non so proprio che rispondere, perché non l'interesse c'è e come. No, ma adesso non stiamo discutendo dell'interesse, per carità, è una parentesi. Parliamo anche di questo, mi pare. No, sto parlando. Sì. del PM che dispongono certi provvedimenti, certo. Ho precisato, e quindi non dei carabinieri, no, questo era chiarissimo. Ecco, quindi, senta, quindi, ma è vero che sua figlia hanno, cioè, come è successo la reazione della sua famiglia in quel momento a casa, qual è stata? Di estrema sorpresa, naturalmente, di sconcerto. Quindi, chi c'era? Suo marito? Suo marito? E i miei due figli. I suoi due figli. Di cui uno è avvocato, mi sembra, no? Poi dopo è venuto l'avvocato, sì, che io ho chiamato. No, uno dei suoi due figli, mi sembra che uno è avvocato, sbaglio, mio figlio, no? Gli hanno sequestrato il computer e quindi naturalmente, come tutti i ragazzi, lui è legatissimo al suo computer, ha cercato di protestare, ma non c'è stato niente da fare. Ma perché hanno sequestrato pure il computer di suo figlio? Perché appunto ritenevano che potessi nascondere dentro al computer questi atti giudiziari. Va bene, grazie, buona serata. Grazie, buona serata di essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo a Roberto da Roma. Roberto. Buonasera, dica pure. Dunque, io sono un po' stufo di queste lagne, quando ognuno si lagna dei giudici che ce l'hanno con me, eccetera. Poi la signora in particolare ha ripetuto 7-8 volte che era una giornalista, come se non fosse, come se fosse una casta a parte. No, ma io infatti l'ho fatto notare, ma insomma, per me francamente è ininfluente anche queste cose sulla libertà di insomma. Per me non è diversa una perquisizione a casa di qualcuno, di un cittadino normale oppure di un giornalista. Comunque, insomma. Infatti, cioè, tra l'altro, quando c'è ipotesi di reato, saprà il giudice come agire. No, è vero che la perquisizione personale, sulla perquisizione personale si può discutere. Un giudice può anche, come dire, può anche capire che la perquisizione personale fatta a casa è assolutamente inutile per trovare certi documenti. Non è che uno è così deficiente da far trovare i documenti che i magistrati cercano a casa sul tavolino o con una chiavetta dentro le mutande. Insomma, ma quando ci spogliano all'aeroporto, scusa, c'è qualcosa di umiliante? No. Io non sono un terrorista, mi faccio spogliare all'aeroporto tranquillamente. Ogni giorno vengono perquisite centinaia di persone, a volte anche che non siano assolutamente colpevoli, fa parte delle indagini. No, ma infatti, ma anch'io la penso così. Però stavo andando a Bruxelles con il direttore Cruciani, con il direttorissimo Cruciani, sì. E mi hanno fatto togliere le scarpe davanti a tutti, avevo il calzino bucato. Vabbè, non è che ti hanno fatto spogliare. Ho capito, ma se avessi avuto qualche problema in più, mi avrebbero accomodato in uno stanzino e un signore poliziotto dell'aeroporto mi avrebbe, se fosse suonato ancora, come si dice lì, il body scanner, mi avrebbe spogliato in questo stanzino, ma non mi sarei sentito umiliato, perché voglio dire, non commettendo reati, io ho detto va bene, spogliatevi, vedete cos'ho, se vi piace. Roberto, ci sentiamo dopo, adesso c'è il giornale radio, la richiamiamo, 800 24 00 24, restate con noi, La Zanzara, fino alle 21. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24, hai fatto bene a fare quelle domande così pungenti, no. Anche a una giornalista, così bisogna fare, qui non è che si fanno sconti a qualcuno, qui alla Zanzara. Chiedo, scusa, non volevo insultare nessuno. Ma non hai insultato nessuno, hai fatto bene. E tra l'altro, delle domande, Michele, delle domande. Scusami, Parenzo, dove sei? Chi hai con te? C'è con me una notizia, Michele, da darti, una notizia, Che notizia hai? Berlusconi alla fine. Ma come notizia? Lo dicono da 15 anni. Vabbè, andiamo oltre. Traffico. No, in questo caso. Traffico c'è appena stato. Abbi pazienza. Scusa. Borsa. No. TG3 invece. TG3, titoli. Al Cairo gruppi di fedeli al regime attaccano i manifestanti, morti in piazza Tahrir, Mubarak sfida Obama e rifiuta di lasciare il potere. Napolitano, fermare la spirale di contrapposizioni che blocca le riforme, anche l'informazione sia più pacata e responsabile. Berlusconi, condivido il richiamo del Colle, pronti a tornare alla politica, Franceschini svolta ipocrita e lui che getta benzina sul fuoco. 13 in tante piazze italiane le manifestazioni in difesa della dignità delle donne dopo il caso Ruby, sabato a Milano il movimento di Saviano. La Procura di Milano invierà entro martedì la richiesta al GIP per il Premier, spunta un bonifico di Berlusconi alla mamma di Noemi. La crisi taglia i redditi delle famiglie, meno 2,7% nel 2009, più colpite le regioni del nord, tiene il mezzogiorno. All'orientale di Napoli la polizia sgombera con i lacrimogeni gli studenti che avevano occupato alcuni locali abbandonati. Il giallo delle foto scattate a casa di Berlusconi. Un giallo che è stato, come dire, disvelato in parte, solamente in parte, ieri sera dal nostro amico Luca Barbareschi, proprio qui alla Zanzara. Cosa ha detto Barbareschi? Ha detto che ci sono delle foto che evidentemente lui ha visto durante la visita che Berlusconi l'altro giorno, cioè ieri in realtà, delle foto fatte con strumenti professionali, cioè non delle foto prese così dalle ragazze, magari con i telefonini, cioè delle foto professionali fatte probabilmente da spioni oppure dalle stesse ragazze, ma qualcuno deve aver fornito a queste ragazze del materiale tecnico per farle, no? Io ancora non ho capito bene chi ha fatto queste foto, se esistono, che tipo di foto sono. Sentiamo Barbareschi. Bocca mia, deve sapere che le foto scattate e le registrazioni non sono state fatte da telefonini, ma da apparecchi che costano più di 20-25 mila euro l'uno. Le cose usate sia per la registrazione non sono cose da non professionali, sono cose da professionisti, cioè con strumenti che sono usati per lo spionaggio. Roba grossa, roba grossa, roba grossa. Roba che scotta. E chissà se ci sarà un seguito a questa vicenda. Qualcuno dice che è lo stesso Berlusconi ad aver detto questa cosa a Barbareschi, così per, no? Verosimile, come se fosse una strategia difensiva quando forse queste foto usciranno fuori. Lo stesso Barbareschi poi ha detto anche che se uscissero le foto di Berlusconi, lui, eccetera, eccetera. Se io vedo uscire una foto pubblicata di Berlusconi sarò profondamente offeso come italiano, perché penso che non è così che vada gestita la cosa pubblica, non vada gestita le cose. Vabbè, ma comunque la frase del giorno che dopo è stato bene però far riascoltare questa cosa di Barbareschi. Sì, forse ci vorrebbe una telefonatina a Gioacchino Genchi, che dici? Ma forse sì, ma sai perché? Perché riascoltando esattamente quello, perché poi in diretta si perdono molte cose. Ma la prima domanda è, ma cioè la tesi qual è? Che gli investigatori avrebbero dato a qualcuno delle ragazze o a chi per fare delle foto dentro la villa? Davvero è ci vuole il tenente Colombo? Ci vuole il tenente Colombo? Eh beh, sì. Oppure Gioacchino Genchi, insomma. O Gioacchino Genchi, è simile. Grande Genchi. Andiamo a sentire Sgarbi, che dice di essere stato fisicamente con Ruby. Rubacuori. Volevo dirvi che io sono stato con Ruby, voglio essere processato. Voglio essere processato. Sei stato con Ruby a pagamento? La sfera sessuale è privata. Io vi dico che conosco altre 8 persone che sono state con Ruby. Ma tu sei stato, voglio essere processato. Sei stato con Ruby? Perdonami Sgarbi, sei stato con Ruby a pagamento quando era minorenne? No, perché Ruby non è una prostituta. Non è una prostituta. Sull'erba molto spesso il psicologico. Sempre per le voci della politica, Di Pietro, ho fatto 60 anni e adesso devo comportarmi più da nonno che da scapestrato. Io non sapevo che si comportasse da scapestrato, anche se qualche foto era uscita qua e là. Però, insomma, foto normali, in compagnia di assistenti, donne, ma insomma niente di particolarmente, come dire, no? Pruriginoso, ecco, compromettente. Obiettivamente, io guardandomi in retrospettiva, ho fatto 60 anni e quindi da adesso in poi devo cominciare anche a comportarmi un po' da nonno e non soltanto da scapestrato giovanotto. In questo senso, quindi, con l'anno nuovo ho fatto questo fiorettolo. Forse parlava dal punto di vista politico, diciamo, no? Cioè, lo scapestrato politicamente, adesso ho fatto questo fioretto. Effettivamente dall'inizio del 2011 non vediamo più lo stesso Di Pietro, roboante, no? Moderato. Anche ieri sera non ha regalato fuoco e fiamme, sì, le sue perle a Ballarò. E vabbè, poi c'è sempre il solito Bocchino con la Minetti, che è una che pulisce i denti e non uno scienziato, una cosa che già sapevamo. Chiedendo dei dirigenti meritevoli di quello che allora era il mio partito, dal listino bloccato, l'ha fatto diventare a 25 anni consigliere regionale, dicendo che era uno scienziato, fa la pulizia dei denti, cioè voglio dire, insomma, perché poi quando dice... Adesso Minetti non c'è, come dire, non si può difendere. Eccetera, cioè una signora che fa la pulizia dei denti, è uno studio del dentista. Lo stipendio di consigliere regionale per 5 anni è pari a 800.000 euro netti di soldi pubblici, cioè i contribuenti, noi cittadini italiani, paghiamo la Minetti 5 anni 800.000 euro per organizzare le scene di Berlusconi e tutto il resto che la Minetti ha detto e che emerge nell'interrogazione. Vabbè, c'è una domanda che mi preme fare anche agli ascoltatori. Ci credete o no al fatto che l'ex sindaco di Bari, che è stato nostro ospite ieri di Cagno a Brescia, si sia imbattuto in quelle foto sull'iPad di una escort, di un sito a pagamento, eccetera eccetera, perché stava facendo pulizia al computer? Io personalmente sì, tu Parenzo pure, no, mi sembra? Sì, l'ho detto anche ieri, certo. Credo che gli ascoltatori però abbiano dei dubbi. Sentiamo innanzitutto di Cagno. Stavo facendo la pulizia del computer, ho spinto alle spam, che io non so neanche che cosa siano, e quindi è venuto qualcosa che mi ha stuzzicato l'interesse, perché comunque vedere delle belle figliole, anche se queste sono a pagamento, diciamo, si appalesavano soltanto queste ragazze che davano delle prestazioni e che quindi si pubblicizzavano, diciamo, sul computer. E poi Della Valle, della serie Esagerazioni, credo a Ballarò, ieri sera come al solito, ospite fisso a Ballarò. Non puoi fare vedere i talk show ai tuoi figli, addirittura, esagerato, Della Valle. Cioè, non è giusto che tu hai un figlio che alla sera alle 9 vuoi che veda un po' di talk show per non starlo solo a far giocare, che lì ci va a dormire, che non è il caso. Allora, quella roba là se ne sta discutendo. È vietata ai minori pure il talk show politico. Pure Ballarò, scorre inizio, va il prezzetto. Beh, a parte che insomma i figli che vanno a letto invece devono vedere Ballarò, non so quale sia la percentuale, comunque. Esagerazioni. Iperbole. Carlo da Roma, 800 24 00 24, dica. Buonasera. Dica pure. Senta, ma il punto centrale, cioè la monarchia dei giudici in Italia, perché noi siamo governati dai giudici, questo punto lo state sviscerando in qualche modo, cioè dal 94 in poi, pensate alla storia italiana e pensate se i giudici hanno mai accettato qualsiasi forma di riforma, di ridimensionamento, pensate a questo. Che i giudici siano refrattari alle riforme, su questo non c'è dubbio, che ogni volta che si prospetti una riforma dicono la loro e spesso si oppongano, anche questo non c'è dubbio, però addirittura la monarchia dei giudici mi sembra esagerato, più che altro la debolezza della politica, io direi, più che altro. Cioè, debolezza della politica, se la politica fosse forte imporrebbe la riforma, una qualsivoglia riforma, caro Carlo. Esatto, infatti la politica è ricattata dai giudici, ognuno ha qualcosa. Vabbè, ma venire. In rapporto a che vicenda? No, volevo dire, lei immagini se per caso qualcuno se la prende con lei, in che qualche senso? Giudice a un certo punto dice vabbè, il... Ma non è che i giudici dicono vabbè prendiamocela con quello, cioè non è proprio, diciamo, così. Prendiamocela, cioè, con quello che ci dà fastidio, cioè la giornalista del giornale di ieri, ha osato fare una cosa che è grave, diciamo, però contro i giudici, voglio dire, cerchiamo di essere obiettivi. Non so se mi spiego. No, ma guardi, sulla perquisizione sulle 8 di alle 9 di mattina che perquisiscono corporalmente per cercare è una cosa incredibile, cioè io rimango veramente allibito. Però su questa cosa, si può riflettere, Parenzo, tu che sei uno di quelli che dice è tutto normale, le perquisizioni sono delle cose che si fanno per tutti i cittadini, perché non si devono accettare, non è stato commesso nessun sopruso, certo essere denudati non è una cosa piacevole, però fa parte del diritto di indagine, eccetera eccetera. Però effettivamente 5 carabinieri di mattina a casa di una persona come se avesse commesso chissà quale reato è una cosa che fa pensare. Cioè non è che le cose avvengono per caso, avvengono perché un giudice vuole che avvengano. Cioè non dobbiamo pensare che sia tutto automatico, perché la legge dispone questo, questo, questo, questo e quest'altro. Un giudice decide cosa fare. Siamo chiari, eh? C'è il traffico, no, c'è la borsa, torniamo subito. Qui alle 19.34 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, caro Parenzo, in una serata iniziata con l'intervento di Anna Maria Greco, giornalista del giornale, la quale ci ha spiegato il modo in cui è stata perquisita, denudata, insomma, è stata invitata a spogliarsi all'interno di una camera davanti a un carabiniere donna. E l'hanno perquisita per cercare di capire se aveva questi documenti, famosi documenti che sarebbero stati sottratti dal signor Brigandì. A proposito del signor Brigandì, rifacciamo un attimo questo numero di telefono, va? Perché dobbiamo rifarlo assolutamente a questo punto, il numero di Brigandì, per cercare di pizzicarlo in diretta. Vediamo chi risponde oggi, se la segretaria oppure, ma no, credo che risponda lui, eh. Oggi ha risposto all'ANSA in realtà, perché c'è stata anche una perquisizione della sua abitazione, credo, Intanto devo dire che il Presidente della Repubblica Napolitano vuole dettare la scaletta ai telegiornali. Oltre all'ammonimento alla politica sulle contrapposizioni, vabbè, è logico, questo fa parte del compito del Presidente della Repubblica, che come al solito rimarrà inascoltato, e vuole anche però dettare le scalette ai telegiornali dicendo che c'è un eccesso di cronaca nera soprattutto. E questo francamente non lo capisco, perché un Presidente della Repubblica debba parlare di quello che i telegiornali mandano in onda. Certo. Vabbè, via, Napolitano. Hanno finito per occupare uno spazio abnorme nei telegiornali, uno spazio assolutamente abnorme, le notizie di cronaca nera e cronaca giudiziaria hanno preso il posto di informazioni essenziali che finiscono per essere invece assenti, come poniamo le informazioni di politica internazionale. Subito Minzolini ha detto: io invece le notizie di politica internazionale le valuto e le diffondo. Infatti ricordiamo tutti il famoso dramma in Tunisia. Com'è? Dramma in Tunisia, l'apertura dedicata alla Tunisia del giorno in cui stava scoppiando l'inferno sul caso Ruby. Va bene, 800 24 00 24. Con chi eravamo? Con Roberto da Roma, Un attimo solo, Roberto, un secondo. Sì. Oh, signor Brigandì, buonasera. Buonasera. Pronto? Chi è? Sono Cruciani, Radio 24. La disturbo? Mi dica. Senta, può rispondere a qualche domanda? No. No, non risponde. No, perché ha parlato anche con l'ANSA oggi. Siccome ha parlato con l'ANSA oggi? E niente, non vuole rispondere. Ce l'ha con noi. Cosa pazzesca. Che meraviglia. Perché uno non può rispondere a qualche domanda? Non ho capito perché. Anche per rispondere? Dire... No. No. Tu. Va bene, Roberto. Pronto? Allora, cosa voleva dire? Salve, sono Cruciani. Io sono praticamente indignato con la giornalista del giornale, perché la giornalista, per tre motivi sostanzialmente. Uno, perché la giornalista ha parlato di essere stata intimidita dalla magistratura. Io non accetto prediche da chi è giornalista di un quotidiano che ha intimidito da mesi il Presidente della Camera e tutte le persone che non erano d'accordo col Presidente del Consiglio. Quindi parlare di intimidazione da parte della magistratura è veramente una cosa veramente da ridere. Scusi, però perché lei parla di intimidazione? Il giornale ha fatto delle inchieste eccetera eccetera, discutibili alcune, altre meno, come tutte le inchieste dei quotidiani. Ci sono stati titoli tipo stai attento Gianfranco, via. Vabbè, lei parla di intimidazione, d'accordo? Dunque, cioè, secondo non lei... accetto, a prescindere, io non accetto il termine intimidazione della magistratura nei confronti di questa giornalista. Questa è l'interpretazione della signora Anna Maria Greco, che dice: la magistratura mi voleva intimidire perché ho pubblicato quelle notizie notizia sulla Boccassini, punto. La magistratura fa il suo dovere, non intimidisce nessuno. Questo è secondo il mio punto. Lei è una normalissima cittadina italiana e ha subito una normalissima perquisizione. Vabbè. Quindi può essere stata più o meno, per carità, creare del disagio personale, io non lo metto in discussione, ma lo stesso disagio l'avrebbe creato in una qualsiasi famiglia vittima tra virgolette di, sì, di un evento di questo tipo. La terza cosa, io che sono stufo di questo vittimismo che circola, perché che è trapelato da questa giornalista, perché c'è un problema etico. Cioè, questa, qual è il problema etico, scusi? Complice di chi ha fornito del materiale illegale, al di là del diritto di cronaca. Deve essere tutto provato, Roberto. Lei ha già deciso che c'è stato un reato, eccetera. Per carità, io magari posso essere duro nell'affermazione. Allora, le dico subito una cosa, Roberto. Innanzitutto che la signora Greco non è indagata, che pubblicare quelle cose, se uno le ha in mano, è assolutamente legittimo. Poi si può discutere sull'inchiesta o meno, se è opportuno. Di un discorso etico. E qual è il discorso? In questo caso che c'entra l'etica? Mi scusi, Roberto. Ma qui stiamo parlando del fatto che una ha in mano dei documenti. Lasciamo perdere come li ha avuti, quello sono affari suoi. Beh, a meno che non abbia ammazzato qualcuno. Scusi, abbia pazienza, Roberto. Allora, finisco il concetto, poi per carità si discute, siamo qui apposta. Cioè, nel momento in cui io vengo a sapere che ci sono questi documenti, che sono documenti che sono di provenienza, che non dovrebbero essere in mano di quella persona che me li sta dando. Non è così. Ma allora l'inchiesta perché nasce? Perché no, ma l'inchiesta è sull'abuso d'ufficio. L'inchiesta sull'abuso d'ufficio che avrebbe commesso Brigandi, il signore che prima non ha risposto. Che avrebbe fornito questi documenti che non sarebbero dovuti essere, sarebbero dovuti uscire dal CSM. Cioè, non c'è nessuna indagine nei confronti della signora Greco? No, per carità, lo so, però c'è un discorso anche etico. Ma scusi, ma tutti i giornalisti si procurano dei documenti in maniera, come dire, non particolarmente ortodossa, ecco, usiamo questa espressione. Per cui, di che stiamo parlando? Il problema non è come ha acquisito questi documenti, il problema è il decreto di perquisizione che è stato fatto dai magistrati. Lei ha anche l'obbligo di tutelare la fonte fino a quando il magistrato non gli chiede di sciogliersi dal segreto professionale, ma questo prevede la legge, no? Sul segreto professionale io assolutamente sono d'accordo e so che il tema in questione è la perquisizione. Io però facevo un discorso nel terzo punto etico molto più ampio, perché spesso nella politica, nei discorsi di politica e anche in questo caso subentrano momenti in cui i giornalisti pubblicano o esagerano o inseriscono particolari esagerati. Va bene, d'accordo. Roberto, in questo caso non c'è nessun particolare esagerato, eccetera, eccetera. Lei sta mettendo in discussione il fatto che uno possa procurarsi documenti in un certo modo, quello fa parte del lavoro di ognuno di noi, in questo caso c'è evidentemente una bravura tra virgolette da parte di un giornalista nel procurarsi certi documenti. Poi un'altra cosa è la validità dell'inchiesta, su cui l'abbiamo già dato nei giorni scorsi. Gianluca da Cagliari, buonasera. Buonasera, sono un collega e volevo semplicemente dire che la perquisizione corporale secondo me doverosa, in quanto oggi dubito che qualcuno di noi giri con un faldone sotto braccio oppure lo lascia in giro per casa, quindi sicuramente tutto il materiale può essere scansito, riportato in una micro card e tenuto addosso. Presumo che ci sia stato un input da parte del giudice di una verifica di questo tipo, per il resto ognuno è vittima e carnefice delle proprie azioni, quindi consapevole del percorso che stava facendo. Il resto a voi, insomma, tutte le considerazioni. Questo è quello che credo, insomma. Sì, anche se oggettivamente mandare 5 carabinieri per trovare la mattina una microchip o non so che chiavetta addosso a una persona, se uno deve nascondere le cose, persona sicuramente hanno fatto un'attività sapendo che quante persone erano in casa e quindi dovevano tenere sott'occhio chiunque nel caso. Ho capito, ma l'hanno fatta spogliare, che come se potesse avere una microchip non so dove, cioè abbia pazienza, nelle tasche dei vestiti, insomma una microchip, una chiavetta o qualcosa del genere. Una chiavetta potrebbe essere anche un ciondolo di una catenina. Quindi ma ho capito, ma uno un documento delicato non è che se lo tiene addosso. Comunque in ogni caso, Gianluca, io capisco quello che lei vuole dire. Nel senso che non è che a quanto ho detto e ho sentito sono stati assolutamente cortesi e gentili i carabinieri, quindi è semplicemente questo, cioè l'evoluzione dei tempi porta a non avere più le carte in giro, Quindi secondo me la perquisizione era data da, la perquisizione fatto. Corporale è legittima. E un ascoltatore scrive: se la Greco non ha commesso reati, allora non li ha commessi nemmeno Assange, quello di WikiLeaks. Ed è una considerazione, su cui riflettere. 800 24 00 24. Giuseppe da Rimini, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io volevo mettermi sulla falsa riga di quelli che mi hanno preceduto. Rimaniamo, lasciamo perdere la questione puramente morale, che non c'entra niente, ma atteniamoci ai fatti sulla questione della giornalista. La giornalista ha fatto il suo mestiere, ha pubblicato l'articolo e non entriamo nel merito della questione, ha fatto bene, però ha pubblicato del materiale che non doveva uscire. Non critico lei. Critichiamo chi ha fatto uscire delle notizie. Ma che io non credo che questo materiale non poteva uscire, non poteva essere divulgato dal CSM, ma non credo che sia illegale pubblicarlo. Attenzione, non lo so. Comunque, francamente, Giuseppe, non è interessante. Adesso non ci addentriamo in queste cose, non ci annoiamo in maniera spaventosa. No, allora, qual è il punto? Cioè, di cosa vuole parlare? No, volevo parlare di questo, che a un certo punto se l'annoia questo fatto non ne parlo più. Voglio dire, è noioso dire che questo materiale poteva essere pubblicato, non poteva essere pubblicato, poteva uscire dal CSM, che ce ne frega a noi? A me, certo, però non mi sta bene questo vittimismo per cui, come diceva il nostro caro Parenzo, se io vado a un check-in in aeroporto, mi spogliano e mi tastano dappertutto, non grida lo scandalo, oddio cosa mi fanno. È una normale perquisizione, ma io mi sento un terrorista e non vado a piangere da nessuno. No, ma ho capito, lei come dire, critica il vittimismo di Anna Maria Greco in questa situazione. Allora, però, giustamente gli osservatori mi fanno notare che se c'è una perquisizione in un giornale della sinistra, o comunque in un giornale che non sia legato ad ambienti del centrodestra, si grida allo scandalo. Ed effettivamente in questo caso non è che si sono levate molte voci, no? Di solidarietà. A me non me ne frega niente della solidarietà nei confronti del giornale. Sì, però voglio dire, la stampa. Sì, ma perché nessuno ricorda che il 18 marzo, mi pare, del 2010 anche la Repubblica ha subito una perquisizione? Cioè, io ricordo il giornalista collega Francesco Viviano, che si è occupato della questione Agicom Rai, delle intercettazioni eccetera, ha subito una perquisizione da parte della polizia giudiziaria, che sono andate negli uffici della redazione di Repubblica a Roma e gli hanno preso il computer, hanno fatto una perquisizione di un certo tipo eccetera. E l'accusa mi pare fosse rivelazione di segreti d'ufficio, non mi ricordo se era questo. Va bene. Valerio, provincia di Ferrara. Valerio? Buonasera direttorissimo, dica. Signor Parenzo. Io avevo una domanda proprio per Parenzo e volevo proprio, ecco, citare questo fatto di Repubblica, che se non ricordo male molti gridavano allo scandalo per la perquisizione. Però avevo questa domanda proprio per Parenzo. Volevo chiedergli se a essere perquisito la mattina alle 9 fossero stati Scalfari o Santoro o Travaglio, la reazione di Parenzo sarebbe stata così tranquilla o si sarebbe indignato di più? Grazie, no, buonasera. Ma non è di che colore ha la maglietta o in base a che cosa uno scrive che io mi indigno, no? Cioè, non è che ho i paraocchi, siccome perquisiscono uno che scrive per un giornale di centrodestra, allora non urlo allo scandalo. Mi pare che qui non ci sia nessun casino da sollevare, cioè non è che c'è, siccome è uno del giornale allora non mi indigno, ma non è questo, la libertà però di stampa non c'è dubbio che la corrente alternata, no, ma questo va bene, però è anche vero che è piuttosto curioso, non si può pensare che le cose avvengono in automatico, le cose avvengono soprattutto perché c'è la volontà di farle. Ora, siccome la cosa riguarda documenti usciti dal CSM, che è l'organo di autogoverno dei magistrati, siccome la notizia pubblicata riguarda un magistrato, cioè la Cassini, immediatamente, qualche secondo dopo, si mette in moto un certo meccanismo. Un meccanismo immediato, un meccanismo che non è un meccanismo, come dire. Beh, quasi sempre così. Ma non è così, assolutamente. Quando c'è una fuga di notizie, ci sono documenti da cui non è quasi sempre così. Non c'è questo clamore, beh certo, poi il giornale non è che non c'è dopo, clamore, non oggi c'è, giustamente il giornale ci ha marciato sopra, no? Ma l'avrebbe fatto chiunque, in modo intelligente il buon Sallusti ha detto: beh, aspetta un po', ci faccio un'apertura, il braccio violento dei PM, spogliata la nostra cronista. Se uno arriva dal Cile compra per sbaglio il giornale, per sbaglio arriva all'aeroporto, compra il giornale e dice: ma in che cazzo di paese sono finito? Vabbè, spogliata una cronista. Ti voglio avvertire e ti voglio segnare che il Cile è una normalissima democrazia oggi, anche molto avanzata. Se uno arriva dalla Russia, che ne so io, arriva di certo, oggi infatti l'esempio è sbagliato perché non c'è più il camerata Pinochet, però in qualsiasi dittatura islamica o in qualsiasi altro, beh, arriva qui e dice: ah, caspita, ma dove siamo, in che paese siamo finiti? In verità, per fortuna, la libertà di stampa nel nostro paese c'è, tant'è che loro hanno pubblicato quell'articolo, discutibile perché secondo me non era una notizia e quindi chiudiamola lì. Però non è una notizia perché è dell'82, una notizia ha i caratteri di novità, come ci insegnano all'esame di Stato. Va bene, Nicola ci chiama da Padova, 800 24 00 24, buonasera. Buonasera a lei. Per fortuna dico c'è Cruciani che tiene un po' l'equilibrio, onestamente, perché se fosse per il sarcasmo che mi fa venire il vomito che usa il padovano lì. Vomito addirittura, si vomita per tante cose nella vita. È un disastro veramente. Sono indignato di questa magistratura, sono indignato che un giornalista come quel padovano, che lì mi dispiace che sono di Padova, non abbia usato lo stesso equilibrio rispetto a Repubblica. Sono d'accordo con il precedente ascoltatore, veramente è una vergogna. Arrivare a queste cose qui in Italia. A quali cose, scusi? A quello che è successo alla giornalista. Io porto la piena solidarietà alla giornalista, che sia di Repubblica, che sia dell'Unità, che sia di chi che sia. La magistratura in questo momento qua fa schifo a usare quel metodo lì. Scusi, però Nicola, fare le indagini in maniera equilibrata, ma in quel maniera lì è una maniera politica e stupida l'hanno di fare. Ricordate che la vita è una ruota e gira oggi a me, domani a te. E il calzino che ha bucato il suo amico lì che parla, non so dove parli, il calzino da Roma. Lo troveranno anche a lui prima o poi. Ma è questione di tempo se accettiamo questo metodo. Ma qui, da chi arriverà? Chi è che arriverà? Scusi, Nicola, si calmi. Chi è che arriverà da Parenzo? Mi scusi. Arriverà prima o poi il giudice che sarà contro le idee di Parenzo, capisce? È una volta amico che mio che mi hanno fatto il processo. E allora il calzino glielo farà mangiare il giudice a Parenzo. Ascoltami. Capito? Guarda, amico mio, che faccio. Scusi, amico mio, io ho fatto un attimo, Nicola, si calma. Lei non ha portato la sua solidarietà, ha fatto del sarcasmo con la giornalista. Nessun sarcasmo. Ma solo che gli dicesse dove l'hanno guardata, capisce? Ma guardi, ha fatto del sarcasmo come lo fa tutte le sere. Ma no, ma ha fatto ma delle domande. Ma va bene, ma è legittimo. Non è produttivo fare questo sarcasmo per l'Italia. Nicola, lo capisce? Si fermi un attimo, però, altrimenti non lascia passare a parlare nessuno. Se vuole fare un monologo, lo faccia pure. Cioè, ha fatto delle domande dicendo che non è la polizia di Pinochet e che è una perquisizione fatta nelle regole, eccetera. Secondo me, furbescamente, ha tentato di portare in tranello la giornalista facendogli dire quello che lui voleva dire. Un tranellino, sì. Guarda che la collega Greco, in una certa esperienza, guardi, caro radioascoltatore, che lei sta denigrando la collega Greco, che invece è una giornalista di grande esperienza e che non è caduto su un tranello. Ma si discute delle cose. Il tono di voce della giornalista era talmente... Secondo me è fuori di sé e non era in questo momento, perché ha subito una cosa, almeno io ho avuto questa impressione dal tono che ha usato. Ma scusi, Nicola, questa qua, ma guardi, Nicola, scusi un attimo, lei sta contestando quello che noi facciamo ogni sera, cioè non è che qui noi usiamo con certe persone un atteggiamento e con altre un atteggiamento diverso. Se ci sentiamo, non sempre, naturalmente, dipende dagli ospiti, eccetera. Però se ci sentiamo di fare del sarcasmo con qualcuno, in questo caso non è stato utilizzato sarcasmo, lo facciamo. Ma che intimità? Adesso non esageriamo, è stata una perquisizione. Non siamo mica tutti delinquenti, sai, in Italia. Ho capito, Nicola. Se uno fa già. Scusi un attimo, il mitico Rino Formica diceva che la politica è sangue e merda. Utilizzando un'espressione molto greve, anche il giornalismo è in parte così. Se uno fa il giornalista di cronaca giudiziaria, si può aspettare che uno ci sia a un certo punto qualcuno allora che faccia una perquisizione. Va benissimo, la porto anch'io. Del giornale, va bene. Dell'Unità, di Repubblica, di Manifesto. Va bene. Io non porto la solidarietà a nessuno perché me ne frego della solidarietà. Non è un criterio su cui ragiono. La solidarietà, va bene. Grazie, Nicola. 800 24 00 24. E che vuoi fare così? Ma va bene. Va benissimo. Ci sta anche Nicola. Io lo adoro Nicola. Barbara Guerra, buonasera. Buonasera a voi. In che covo di matti è capitata? Mannaggia, stavo ascoltando, veramente terribile. In che covo di matti? Allora, Barbara Guerra, showgirl, protagonista della televisione italiana. Showgirl bellissima, però. Molto bella, molto bella. No, bellissima, non molto bella. Molto bella, io dico molto bella. Tu bellissima perché devi sempre andare oltre e cerchi subito di lisciare il pelo all'ospite. Sempre così fa. Adesso vediamo. È una tecnica, signora Guerra, non si lasci suggestionare. È capitata in questa vicenda delle intercettazioni, diciamo subito che non è indagata. No, sono parte lesa. È stata interrogata anche, no? No. Ma soltanto ha subito la perquisizione da parte degli inquirenti, perché cercavano comunque gli ospiti del presidente, qualche materiale o qualcosa che comunque potrebbe condurre a quello che Rubi raccontava durante le sedute dai magistrati. Senta, signora Guerra, è vero che lei per questa vicenda, siccome è finita sui giornali come frequentatrice della casa di Berlusconi, per aver partecipato a qualche festa barra cena, ha perso dei lavori per questo, è così? Ma perso i lavori no, perché io conduco un programma sportivo e non mi hanno lasciato a casa, quindi non ho perso nessun lavoro. Poi sai com'è, che comunque si parla tanto. No, io ho letto che lei ha fatto qualche dichiarazione in cui dice no. Adesso non lavorerò più. No, anche non è così, io continuo a lavorare per fortuna. E solo che comunque sono stati giorni un po' pesanti per tutte le persone coinvolte, non è stata una passeggiata, diciamo, dai, trovarsi comunque all'improvviso al mattino presto quattro poliziotti nella propria intimità, nelle proprie cose, nella propria casa, non era tutti i giorni. No, dai. Certo, lei abita in quel famoso residence ormai diventato. Guardi, purtroppo io sono qui a 2 mesi e mezzo. È stata molto sfortunata. Dunque lei, la stiamo chiamando, è a casa all'Olgettina, nella famosa Olgettina. Anche qui si parlava di sfratto, non sfratto, non è vero nulla, noi siamo tutte qui, le ragazze che comunque... Senta, ma l'affitto là chi lo paga, lei? L'affitto lo pago io, tanto di intestazione a nome mio e di bollette, di assegni fatti a nome mio. Ma chi è il proprietario di questo famoso... Cioè lei a chi lo paga questo affitto? Io pago l'amministratore e le bollette le pago in posta come tutti gli italiani. Ma lei lo sa chi è il proprietario di casa sua? È un certo Frizza, ma non so chi sia. L'immobiliare Frizza? Sì, non l'ho mai visto in faccia. E com'è che è capitata proprio lì? Perché le hanno consigliato? Io lavoro a Mediaset qua, a 2 minuti da casa mia. Praticamente la Marisol Garcia la conosco da 5 anni. Sì. Lavoravamo insieme in Sky, facevamo un programma su Sky insieme. E quindi anche lei, lavorando in Mediaset, mi ha detto, guarda, qui è la zona tranquillissima. Ci sono degli appartamenti liberi, se ti interessa vieni a vedere. E ci ho messo 9 mesi prima di venire, di convincermi ad andare fuori dal centro, che comunque ho sempre vissuto in centro. E alla fine mi sono trasferita purtroppo qui da soli 2 mesi e mezzo. Purtroppo, dice purtroppo, perché ormai questo famoso residence all'Olgettina viene identificato come il residence di persone che hanno a che fare con le feste, se non addirittura con le orge a casa di Berlusconi. Senta un attimo, lei a queste famose feste o cene eccetera ha partecipato? Guardi, io come ho già detto altri suoi colleghi, già un anno fa io ho fatto un'intervista di mia spontanea volontà dove raccontavo di queste cene, i colori, con menù patriottico, musica, tutto. Ho già raccontato questo 1 anno e mezzo fa, non è che è una cosa nuova che io stavo nascondendo, io non nascondo nulla, ho sempre detto di essere una grande amica del presidente, di Silvio Berlusconi. Che lei ammira molto, no? Che io ammiro molto, con la mia famiglia, con mio padre. Allo stesso livello addirittura? Certo. Cioè per lei Berlusconi è come un padre, allo stesso livello di suo padre? No, che ho detto che mio padre è anche... Ah, come suo padre, come fa suo padre, sì, ho capito. Sì, come lo sento suo padre. Cioè per lei Berlusconi cosa rappresenta? Come un datore di lavoro? Un punto di riferimento? Cos'è? Comunque è una persona con cui io posso raccontare o chiedere consiglio, visto che comunque è una grande persona, una grande testa, quindi posso chiedere un qualsiasi consiglio, ma da amico, veramente un secondo padre. Quindi lo reputo una grande amicizia che non vorrei mai perdere, non perché è lui è potente o che cosa, è comunque una persona comunque che io tengo come amicizia. Senta, ma lei è del 1978, se non sbaglio, no? Sì. 38. Dunque, quanti anni ha? Tanti, 32. Vabbè, insomma, tanti, insomma, 32, quasi 33. Ma queste famose cene, no? Perché ogni volta che noi sentiamo qualcuno, le persone ci dicono, beh, c'erano queste cene... Si guardano dei film. Vendola. Dei film, sì, è successo che ogni tanto si guardavano dei film, dei reportage dell'Italia, con dei filmati che riportavano Roma o altre cose. Una cosa noiosissima. No, sono cose interessanti anche, perché... Sì. Reportaggio sull'Italia. E insomma poi finisce lì, cioè a che ora finiscono queste cene, queste feste? Questo è curioso. Dipende dalla serata. Guardi, quando ho conosciuto il presidente, l'ho conosciuto a teatro a Roma, al Bagaglino, la cena è cominciata verso 00:30 e finita alle 1:30, alle 2. E c'erano sia dai coreografi, attori, ballerine, attrici, c'erano uomini e donne, eravamo 30-35 persone. Sesso zero. Sesso zero. Siccome di questo si parla nell'indagine. Ci sono uomini e donne, non è vero che ci sono solo ragazze a queste feste. No, sono ragazze. Bisogna farla finita con questa storia, perché ce l'hanno anche uomini, sì? E signori di anche di altre età, di qualsiasi tipo di età. Bambini anche. Il minorenne, purtroppo, Rubi, noi non sapevamo che era minorenne. Lei l'ha conosciuta, perché... adesso ne parliamo tra poco dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Eccoci, questa è la Zanzara, con me come al solito Davide Parenzo, in collegamento da Roma, molto criticato questa sera, secondo me in maniera anche un po' assurda, però insomma ci sta, alla Zanzara ci sta, e alla Zanzara credo unica trasmissione Radio 24, ospite Barbara Guerra, showgirl, come si definisce lei, signora Guerra? Guardi. Showgirl, che ne so, io non, queste definizioni non mi piacciono mai. No, neanche a me. Per adesso sono una conduttrice, quindi. Una? Scusi? Conduttrice, ecco, conduttrice televisiva, benissimo. Senta, ma allora, il punto adesso non sfuggiamo a quella che è la discussione che si fa in tutti questi giorni dopo che sono uscite fuori le carte dell'inchiesta. C'è un'accusa ben precisa, accusa, adesso lasciamo perdere la parte giudiziaria, che queste feste a casa di Berlusconi in realtà sono feste in cui ci sono delle escort, si fa sesso, eccetera, eccetera. Le feste, cena a cui ha partecipato lei, che c'è? Io tengo una escort, quindi se vuole... No, lei no, io mica l'ho dato l'escort, perché l'abbiamo detto. No, se lei dice che in queste cene sono delle escort... No, io non lo dico io, lo sospettano i magistrati, questo lo dico io. Con i magistrati facendo le intercettazioni e utilizzando le persone indagate. Ma infatti, guardi, le intercettazioni, una cosa che è da ridere, che comunque ne hanno trovate due a mio nome, e una parla di tutt'altro, che io parlo con una mia amica di un giocatore, che comunque ha una storia, e si presume pure che sia Beckham, cioè cose assurde. Cioè lei dice che dalle intercettazioni non si capisce niente, lei dice, no, della realtà. No, perché non è assolutamente Beckham, io un Beckham non l'ho mai visto, ma è studenta mia. Già da questo si capisce che comunque c'è veramente una confusione assurda anche nel riportare queste intercettazioni. Senta, e invece l'altra intercettazione riguarda proprio l'appartamento, non c'è nient'altro, cioè da parte mia né di soldi né di niente. No, per quello che la riguarda no, però alle feste cui lei ha partecipato, queste feste qui erano delle feste sobrie, come dice per esempio Fede, come dice Caro Rosselle, altre persone? In poche parole gli ho già spiegato prima, gli ho detto, cene comunque... tra persone adulte, tranquille, amici che si conoscono, magari non conosco tutti bene come conosco Maribello o altre persone, però sono cene tranquille, non c'è... La Minetti la conosco bene, lei, sì? No, bene, no, l'ho vista a cena, sì, ma non ho un rapporto amicizia, comunque che esco fuori a cena da sola con lei, o no. E che impressione le ha fatto leggere le intercettazioni, cioè, della signora Minetti, che oggi è indagata per induzione alla prostituzione? Cioè, che impressione ne ha tratto? Cioè, lei ha l'impressione che sia l'organizzatrice delle feste con escort, eccetera, eccetera, a casa di Berlusconi? No, assolutamente no. Guarda, io ho letto veramente poche, perché questi giorni sono stata veramente stressata da tutto. Mi hanno cercato talmente tante persone, giornalisti, fotografi, è veramente uno stress psicologico. Ah no, noi, certo, non c'è dubbio. Anche perché non siamo solo noi le persone che erano a cena. Si fa tutto concentrato su queste 5 persone che sono qui, ma ci sono altre soubrette, altre persone che erano a cena. Perché solo su noi dell'Olgettina? Cioè, questo anche mi chiedo. Perché lì c'erano delle ragazze che, secondo l'accusa, ricevono un trattamento. No, ho capito questo, io capisco quello che lei doveva arrivare. Non è solo qui, è la cosa brutta che noi siamo state comunque... Ma quante ragazze c'erano? No, perché prese di mira, per carità, cioè nel senso che capisco l'assedio giornalistico, per carità, ma prese di mira, adesso non esageriamo, nessuno vuole impiccare le ragazze dell'Olgettina al pallo della luce, né portarla a piazzare Loreto. Però è stato comunque una cosa a livello mediatico molto alta. Ah, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Al mattino, il giorno dopo della questura, che non potevo neanche aprire la porta di casa, che avevo il fotografo in casa praticamente, è una cosa ingiusta. Questa proprietà privata, non potevo neanche trovarsi davanti alla porta, neanche davanti al portone, neanche nel giardino. Sono riuscita ad arrivare davanti a casa mia, alla porta di casa mia. Senta, durante queste feste, cene, c'era qualcuno che prendeva delle foto? Perché c'è anche questo aspetto curioso, cioè le venivate per entrare, venivate perquisite, si toglieva il cellulare? Guardi, oppure no? Quando io arrivavo con la mia macchina, i carabinieri mi fermavano, chiedevano il mio nome, dicevano dentro alle guardie che stavo arrivando, se potevo entrare, se il mio nome era scritto tra gli invitati, e lì mi davano il via. Non è che si entrava così bussavo, entravo. No, cioè, questo sicuro. C'era una lista, di persone. Ma il mio nome, quando mi chiamava il presidente, ma quindi il mio nome era nella lista degli invitati, presumo. Cioè, lei veniva chiamata direttamente dal presidente? Sì, sì. Io non credo che ogni volta che dava un ospite dovevano chiamare il presidente per dare l'ok. Credo che lui dava una lista di persone invitate prima di entrare, che veniva rifermato, e presumo sia così che davano l'ok per entrare. Quindi non ha mai visto nessuno che scattava delle foto durante queste scene? No, dico, cioè, ha mai visto nessuno che scattava delle foto durante queste scene? No, per carità. No, però no, è curiosa questa cosa, cioè il cavaliere la chiamava direttamente per invitarla? Certo, le ripeto, per me è una grande amicizia, cioè non, lei un suo amico non la chiama per invitarla, come fa a averla? Gli manda gli manda un'email? È corretto, per carità, no, non sto dicendo niente. Per cui lei, per esempio, sul suo cellulare ha il numero privato di Berlusconi? Certo. Come il numero di casa, come lei ha il numero dei suoi amici, non vedo la cosa strana. Capisce? No, ma non c'è nulla di strano, cioè diretto, nel senso che risponde direttamente lui, oppure c'è un passaggio? No, questo è curioso da capire. No, ho il numero del cellulare come il numero del cellulare di mia madre, di un mio amico, di una sorella, è uguale, cioè non capisco. È un po' diverso, cioè non, per carità, non sto dicendo che è un delitto, ma assolutamente, figuriamoci, però è un po' diverso avere il numero di un amico oppure avere il numero del Presidente del Consiglio. Cioè, il Presidente del Consiglio è un amico. Sì, no, sì, ma perché è più curare come le persone un'amica. No, dal suo punto di vista non c'è nulla di strano. Ecco, secondo me qualche intermediazione, qualche paletto bisognerebbe metterlo, però un filtro così, però è una mia idea, così, per carità. Io non penso che Presidente del Consiglio dia numeri in giro personali a tutte le persone che conosce. Cioè, sembra di sì, c'è una signorina brasiliana, ad esempio, che aveva il numero privato di Berlusconi, non ce l'ha neanche il nostro amico Straguadagno, il numero di onorevole Straguadagno, il numero di cellulare privato. Fuori ce l'ha una ballerina brasiliana. Il consiglio dia il numero suo personale a delle persone di fiducia che comunque lui crede di fidarsi, di poter dare questo numero. Certo, quindi si fida di più della ballerina brasiliana che non di Straguadagno. Cosa, scusi? No, dico, detta così sembrerebbe che Berlusconi, ma è legittimo, si fida di più della ballerina brasiliana che non dell'onorevole Straguadagno. Non so di cosa si parla. No, della persona che chiamò Berlusconi quella notte davanti alla questura, ma è un'altra vicenda. Senta, ma è vero lei ha detto, non la riguarda. No. È vero che una volta lei è stata portata a casa dalla scorta di Berlusconi? Mai, guardi, infatti su questa cosa sono veramente indignata. La spieghi. Ero fuori casa dopo due giorni di pertassamenti, mi ha fermato tre giornalisti, mi facevano domande contemporaneamente, io sono risposto, sì, mi hanno riaccompagnato a casa, ma non ho mai detto né scorta, né polizia, né amici, né amiche, ho detto sì, mi hanno riaccompagnato, punto, non ho mai detto che una scorta mi abbia mai accompagnato a casa, anche perché di scorte lì sotto non le ho mai viste, a parte la polizia e i carabinieri fuori dal cancello. Cioè, non ho mai visto dentro casa girare, a parte i camerieri, i cantanti, dentro delle scorte, cioè, almeno che non erano in borghese. Ma a me a casa non mi ha mai portato a casa nessuno della casa di Arco. Ho capito. Senta, ma un po' una curiosità, siccome si è parlato nelle settimane scorse di una possibile fidanzata del presidente, e visto che lei ha il telefono di Berlusconi, dice che è una persona che conosce molto bene, ma è vera questa storia che Berlusconi è fidanzato? Guardi, se vuole chiami il presidente, ci dà il numero magari. No, se ci il numero di telefono. Se in privato ci dà il numero. No, ma sto scherzando. Dopo che hanno messo il numero di telefoni nostri, forse anche il suo, sulle intercettazioni, quasi tutti hanno cambiato il numero, magari anche lui l'ha cambiato, io non l'ho più chiamato. Interceda per noi. Interceda per noi, come siete il consiglio per telefonare in diretta alla Zanzara, sarebbe meraviglioso. No, però signora Guerra, questa storia del fidanzamento, lei ci crede? No, può essere, ma no, siccome ha frequentato le scene, dice questa cosa è probabile che sì. Certo. Magari a queste scene, ma io non è che stavo tutti i giorni a casa del presidente, io una volta al mese, una volta ogni due mesi, non è che stavo tutti i giorni a casa del presidente. Quindi è vero che ha la fidanzata. Anch'io la mia vita privata e ho avuto fidanzata anch'io fino a due mesi fa. Ognuno ha la sua vita. No, certo, per carità. No, però siccome lei è molto amica di Berlusconi, saprà sicuramente se c'ha la fidanzata, perché tra amici si va, io con Cruciani parliamo. Certo, le ripeto, se vuole chieda. Se lui non ha fatto un nome, perché devo farlo io? No, chiami il nome. No. Conferma che è vero che ha la fidanzata. Se conferma che è vero, no. Chiami lui e chiedi a lui. Ma io ho solo il 335. Non abbiamo le entrature che ha lei, signora Guerra. Cioè, è evidente che non abbiamo le sue entrature, no? Per cui non possiamo chiamare Berlusconi per chiedere, scusi, ha la fidanzata o no, è il presidente del consiglio, non abbiamo purtroppo, no, io ma no, nemmeno a chiederla a me, non lavoro a media, sì, sì, in parte ci lavoro, però insomma non diciamo che non faccio, non sono donna, ecco, insomma, che devo fare? Ma cosa vuol dire? Si deve essere uomo, non può chiedere il presidente. No, capito, evidentemente per lei è più facile avere il numero di telefono di Berlusconi, questo ho capito. Che guarda, ce l'aveva anche mio padre, quindi io non vedo la cosa strana. Anche suo padre, beh. Certo, anche mio padre. Ma ce l'hanno tutti tramite fra guadagni. Ma tramite noi anche, siamo dei poveri sfigati. Magari no? Non eravate persone conoscenti del No, certo. No, questo è sicuro. Va bene, signora Guerra, grazie. Grazie. Grazie, a voi, grazie, buona serata. Grazie. 20:11, pubblicità. Sai che ti dico, Perenzo, a me questa storia del numero di telefono mi fa impazzire. Mi fa impazzire. Mi manda i matti, perché, per carità, va tutto bene, non ci sono reati, cioè stiamo parlando di cose normali. Però il fatto che la signora Guerra, che è una bellissima ragazza, diciamo, ecco, la verità, ecco, possa avere il numero di telefono del presidente del consiglio. Pronto? Sono Barbara. No, è vero anche che Berlusconi ha una storia di imprenditore televisivo, legami, eccetera. Per carità, cioè nessuno mette in dubbio questo. Ma questo è il punto, hai colto perfettamente. Cioè, tu dici l'editore Berlusconi, nulla questio sull'editore Berlusconi. È che ora dal 94 fa un altro mestiere. Cioè, tu dici quando è presidente del consiglio dovrebbe cancellare questi numeri di telefono. Ma diciamo, cancellare, ma è mettere qualche filtro. Che l'onorevole Giorgio Straguadagno non abbia il cellulare. Ci chiami, Straguadagno, so che ci sta ascoltando, ci chiami, ci chiarisca questa cosa, perché lei per arrivare a Berlusconi ci mette magari 10-15 minuti, un passaggio, due passaggi, segretarie, non segretarie, eccetera eccetera, e invece la signorina Barbara Guerra è il numero diretto, eppure suo padre, anche il padre è la ballerina brasiliana, c'è delle regole, c'è qualche problema, forse, oppure magari esageriamo noi, siamo troppo moralisti, forse siamo ma troppo... no, moralisti, rispettosi del vabbè ruolo. Dove andiamo? Gianluca da Milano, buonasera signor Gianluca. Buonasera a voi. Dica. Buonasera agli ascoltatori. Salve, senta, io così... Tra poco Vittorio Sgarbi, preparatevi. Aia. Tuonano fuoco e fiamme, succederà l'inferno, la differenza tra prostitute, escort e mantenute, ci sarà l'inferno. Da qui fino a non so che ora, Sgarbi. È imprevedibile. Gianluca, dica. Ma più che altro era... per avere un po' di chiarezza io personalmente, vorrei sapere se voi riuscite a chiarirmi le idee su quello che sta succedendo, perché diciamo la difesa del Premier oggi si basa sul fatto che tutto ciò che sta facendo lo fa in privato, per cui nessuno ha diritto di intromissione. Allora mi domando, dove comincia il reato all'interno di una vita privata? Per esempio, se io fossi in casa e spacciassi cocaina... potrei farlo perché sono tra le mura domestiche. Ma no, ma che c'entra Gianluca? Ma no. Questo si configura un scusi, reato, questa è una dire. Stronzata il suo ragionamento. Mi scusi se sono così tranchant, eccetera. Mi pare evidente che quando c'è non è che spacciare cocaina dentro casa va bene, spacciarla fuori non va bene. Gianluca, su, siamo seri. Cosa voleva dire? A questo punto le domando, ma la prostituzione per strada è un reato, quindi io ergo deduco che anche tra le mura domestiche sia e rimane un reato. Questa era più o meno la mia domanda. No. L'addescamento e lo sfruttamento della prostituzione è un reato, ma la prostituzione in sé non è sanzionata dal codice, questa è la differenza. Infatti la signora Minetti è accusata di induzione alla prostituzione, ma di per sé uno può vendere il corpo, su questo si fa una confusione pazzesca, cioè la non è che ci sono le retate per portare via le prostitute, vengono fatti via i magnaccia delle prostitute, vengono fatte inchieste sullo sfruttamento della prostituzione, ma la prostituzione non è un reato. Questo è il punto, per fare chiarezza al signore, non è che... Gianluca, allora? Mi scusi, quindi la posizione del nostro attuale Premier, che paga per una prestazione sessuale all'interno della sua abitazione una giovane donna... Non è indagato per quello, lei è mal informato, è indagato per concussione e per prostituzione minorile, cioè dovranno dimostrare che il Premier è stato davvero con la signorina Ruby Rubacuori all'epoca minorenne, questo è il punto, ma non la prostituzione in sé. Lei può andare a prostitute, non in macchina perché sennò è un problema, perché sennò la prendono, c'è il decoro pubblico, c'è... ma se lei ne prende una e se la porta a casa, non commette nessun tipo di reato, cioè l'addescamento è un reato, mi pare. Gianluca, come risponde? Rimango basito perché credevo che fosse comunque un reato anche appartarsi con una prostituta. Ma no, ma Gianluca, questo, francamente su questo ha ragione Parenzo, cioè non è assolutamente un reato e dunque Berlusconi non è accusato assolutamente di questo. Grazie, traffico, torniamo subito, poi Luca da Modena, Luca da Torino, Roberto da provincia di Latina, Marcello da provincia di Pavia. Bene, 2018 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, caro Parenzo. Andiamo direi a, in provincia di Pavia, Marcello. Marcello? Buonasera, mi sente? Pronto? Sì, la sento. Perfetto, la ringrazio. Volevo fare innanzitutto una puntualizzazione, che è vero quello che dice il dottor Parenzo, cioè che esiste il reato di sfruttamento della prostituzione, di cui ha indagato, mi pare, la Ninetti e l'Ele Mora. No, induzione, che è già diverso. Non c'è no, anche Emilio Fede, sì, comunque. Sfruttamento e il favoreggiamento. Poi, questi qui sono i reati che vengono configurati dal nostro codice. Non c'è l'adescamento. Cioè, invece, non esiste il reato d'adescamento. Vabbè, ma di che stiamo parlando? Sì. Marcello, perché vuole specificare queste cose? Perché c'era la specificazione relativamente al fatto che il premier è indagato per il 600 bis, che sarebbe, per la, nella fattispecie, prostituzione minorile. Sì. Cioè, è andato con Rubi, e questa è la sola ipotesi di reato. Esatto. No, c'è anche la concussione, poi. Quella è l'altra ipotesi che non attiene al sesso. No, ma riguarda la telefonata in questura. Va bene, dunque, Marcello, abbiamo già chiarito mille volte. Vabbè, era per puntualizzare. Per carità, puntualizzi pure. Poi, il fatto che la signorina Guerra non abbia visto alcunché all'interno della casa, sì, nelle occasioni in cui lei ci è andata, sì, non significa che in altre occasioni, come più verosimile, altre cose si siano invece tenuate. Ma infatti, quello sa va a san dire, insomma. È talmente Marcello palese, è talmente ovvio, per cui il fatto che invece ci sia una difesa che mi pare improntata sulla testimonianza di tante persone che dicono che alle varie feste non sia mai successo nulla, no, ai fini della difesa mi pare che non significhi proprio nulla. Ma questo saranno i magistrati a valutare, naturalmente. Il signor Ghedini e altri avvocati di Berlusconi hanno fatto le loro indagini, naturalmente prendendo varie testimonianze, tra cui quella anche della signora Guerra, e in cui si dà un quadro, naturalmente secondo questi testimoni, la maggior parte di questi testimoni hanno legami con il Presidente del Consiglio, amici, amiche, dipendenti, eccetera, eccetera, danno un quadro delle feste a casa di Berlusconi. E secondo i magistrati il quadro delle feste a casa di Berlusconi è diverso, secondo le testimonianze che hanno raccolto, soprattutto però, secondo le intercettazioni, attenzione, perché la base principale sono le intercettazioni, che ne dica qualcuno, perché altri dicono no, ci sono anche le testimonianze. Io queste testimonianze non è che ne abbia viste tantissime, testimonianze, diciamo, sul sesso, sulla consumazione di sesso. Nelle 389 pagine ci sono anche queste testimonianze, che sono gli interrogatori, per esempio, che sono stati fatti non solo alla De Consessao, non solo eccetera eccetera altri soggetti, ma anche a persone che avrebbero partecipato a sta cosa, mi risulta. Seconda puntualizzazione che secondo me andava fatta. Terza cosa, bisognerebbe anche qui distinguere, non è che, come mi è parso di sentir dire, forse ho sbagliato, comunque come mi è parso di sentir dire, che era in gioco la libertà di stampa o che perché c'è stata la perquisizione, aggressioni eccetera eccetera. Qui non è che non si vuole imbavagliare la stampa perché non pubblichi X, come giustamente ha detto lei, se c'è una notizia questa naturalmente un giornalista ne viene in possesso e poi la fa il suo lavoro e allora la va a pubblicare. Il problema è che se io, per esempio, rubo un fascicolo, faccio un'ipotesi generica, rubo un fascicolo, la notizia potrà anche benissimo venire pubblicata relativamente al contenuto di quel fascicolo, però io rispondo del reato di furto, perché un reato c'è stato. Ma in questo caso la signora Greco, Anna Maria Greco del giornale, non è accusata nemmeno di questo. Ma non ho detto che sia accusata, ma se io devo andare a ricercare delle prove per vedere se lo è oppure no, ho una notizia di reato e scrivo un il signor X, cioè sì, però ragazzi, non si può essere ipocriti su questo, non si può considerare il fatto che c'è di mezzo la Boccassini, c'è di mezzo il CSM, e in questo caso i giudici sono stati molto solerti, diciamo la verità, sono stati molto solerti, punto, va benissimo, non sto dicendo che sono dei criminali, sto dicendo che sono stati molto solerti, punto. Sono d'accordo con lei. Però, allora, ci sono due aspetti. Il primo aspetto è il fatto che effettivamente in determinati casi, ma non solo nel caso di Berlusconi, anche nel caso di altre cose meno eclatanti, che comunque seguono una via preferenziale rispetto ad altre. Questo è innegabile. Cioè, ci sono delle situazioni nell'aula dei tribunali, dei casi che vanno molto più veloci per motivi che non si possono adesso individuare, e altri invece che seguono un loro IRP che magari magari vanno in prescrizione. Su questo sono perfettamente d'accordo con lei, ed è uno dei motivi per cui la giustizia non è giusta per tutti, se vogliamo star lì a vedere. Ma è un discorso che ha un respiro molto più ampio. E sì, che sì, no, vabbè, certo, certo, certo. Lei mi dice sono stati solerti, io le dico sì, è vero, a mio modesto avviso lei ha ragione, perché mi pare che siano stati particolarmente solerti. Però hanno questa solerzia, è diciamo così perseguibile in qualche modo dal punto di vista o morale o giuridico? No, perché no, no, no, no, assolutamente. È criticabile che non siano solerti in tutti i casi, è vero, è la macchina giustizia che in questo caso si è mossa più velocemente. Sì, ma non è solo la macchina giustizia, c'è anche la volontà. Voi pensate che, non so se lo pensa lei, che le cose nascono semplicemente dalle notizie di reato. Non è così, alcune notizie di reato vengono, come dire, osservate con maggiore attenzione, altre un po' ignorate. Era la prima pagina del giornale in questo caso, cioè, non sì, è che, sì, voglio no, dire, era la prima pagina del giornale su un fatto dell'82. Che riguarda un magistrato. E questi che hanno fatto un'indagine interna per capire come mai un documento segretato è uscito, visto che Brigandì era prima deputato ed è stato eletto al CSM perché è eletto, sì, certo, dal Parlamento, certo. Uno si chiede come è uscito questo documento, premesso che la signora Greco non si è, la collega, siccome è una brava collega, non è che è andata dentro il CSM di nascosto a frugare tra le carte, perché questo i magistrati non lo pensano. Allora si sono chiesti, ma come mai è uscita sta carta? Chi ha accesso a queste carte? Esattamente, esattamente questo è il concetto, cioè la signora, la giornalista, è stata interessata di particolare attenzione, sì, anche se non è stata, se non sarà magari, non sì, lo so, direttamente imputata di qualche cosa, perché comunque le prove di quel reato che sicuramente a monte c'è stato, potrebbe averle sì, lei. Posso dire un'altra cosa anche? Siccome si parla tanto di atti segretati e si parla anche del fatto che bisognerebbe togliere il segreto di Stato da molte cose, sì, eccetera, eccetera. A me pare francamente assurdo che siccome ci sono degli atti che riguardano i magistrati, cioè ci sono degli atti che riguardano la vita personale dei magistrati o procedimenti interni ai magistrati, atti dell'82, proprio per il ragionamento che fa sempre Parenzo, gli atti dell'82 siano segretati. Io la trovo una cosa assurda. Ma no, ma cioè, c'è una ragione. Certo, ma c'è una ragione in questo e caso. E qual è la ragione, scusa? Perché che gli atti che riguardano i procedimenti disciplinari del CSM devono essere segretati? No, sì, spiegami. C'è un motivo. E perché, qual è il motivo? Intanto si chiama è il fatto che... Cioè la privacy vale per tutti, tranne che per i magistrati? No, intanto è il fatto che il CSM, quando si occupò del caso della signora Boccassini, decise che lì non c'era nessun problema e quindi chiuse la pratica. Ma c'è anche il diritto all'oblio che è previsto dal nostro codice. Ma non ho capito, per le cose che riguardano il 78, 79, eccetera, il 70 non c'è diritto all'oblio, e questo caso c'è il diritto all'oblio, ma che vuoi dire? C'è il diritto all'oblio qualora uno venga ritenuto non perché sarebbero stati segretati anche nel caso ci fossero stati provvedimenti disciplinari con una conclusione diversa da quella che è stata. Cioè, io voglio dire, semplicemente una cosa: è assurdo che atti dell'82 su procedimenti interni che riguardano i magistrati, esatto, i magistrati che non sono una casta a parte, ma sono cittadini come tutti noi, certo, siano segretati, cioè non sia possibile diffondere questi atti. Perché non si possono conoscere questi atti? Bisogna riscrivere il regolamento del CSM. Riscriviamo atti pubblici, mi perdoni. Ma ho capito, dovrebbero esserlo o no? No! Perché no? Perché ci sono delle categorie di atti che le faccio un esempio, se il suo ordine dei giornalisti. No, io me lo chiedo, non ho certezze, però siccome tutti quanti invocano la trasparenza il segreto di Stato non deve esistere, atti dell'82 che riguardano procedimenti interni al CSM, perché devono rimanere segreti? Perché non è possibile conoscerli? Se lei viene indagato, facciamo un'ipotesi, e viene iscritto il suo nome, c'è un PM che indaga su di lei per un'ipotesi di reato che si rivela fasulla. Allora? Ipotesi. Poi questo fascicolo sta lì, neanche se viene archiviata la pratica, nella procura questa roba non viene macerata, ma sta lì. Sì. Uno che è contro di lei se la va a prendere. Ma guardi che succede, succede quotidianamente. Commette reato. Ma non è affatto così, guardi, non è affatto così. E comunque anche se commette formalmente un reato, cioè la pubblicazione di atti che non è possibile pubblicare, la sanzione è talmente inesistente che avviene quotidianamente. Quanti articoli leggiamo sul giornale in cui c'è la ricostruzione della vita delle persone, in cui si dice quel politico nell'84, nell'85 ha commesso questo, poi è stato assolto, gli hanno fatto la multa lì, ho avuto quel procedimento lì, cioè, succede quotidianamente. Ma dottor Crociani, mi perdoni, ma il fatto che avvenga quotidianamente quotidianamente non significa che non no, sia reato. No, ma io non sto dicendo questo, sto dicendo le stesse persone che si indignano per il fatto che è stato diffuso un documento, che è stato diffuso un atto del CSM, sono gli stessi che invocano la trasparenza assoluta su tutto, ha capito? Cioè sono le stesse persone. Quello che fanno queste persone che si indignano da un lato e che poi invocano dall'altro è un problema loro. Io sto soltanto sottolineando che non è che sono cose che si possono fare così tanto perse. Poi lei mi dice, sì, ma la sanzione è poca. E io le rispondo, questo è una questione dell'effetto, ma il reato in sé... Sì, è... no, ma ho capito, ho capito. Voglio dire, allora sì, ma adesso io non so nemmeno se ci sia... Permettiamo di farlo così liberamente, tanto lo fanno tutti? No, però voglio dire, quando esce un documento, quando esce qualcosa, e dunque si potrebbe ipotizzare in teoria un reato di abuso di ufficio, non vedo tanti magistrati all'opera per aprire dei fascicoli per un'ipotesi di abuso d'ufficio nei confronti di non so chi. Non ci sono molte procure che agiscono da questo punto di vista. Per due motivi. È vero quello che dice lei e sono d'accordo. E guarda che io non sono magistrato, per cui non ho niente. No, ma io non le ho chiesto se è magistrato. Forse avrà capito che sono da un'altra parte. Comunque, per due motivi, no. Perché, anche se mi spiace ammetterlo, solitamente la fuga delle notizie, come anche questa che riguarda le 389 pagine, non viene dalla magistratura, dalle cancellerie della magistratura, ma da qualche altra parte, Da parte di qualcuno che può avere interesse. Quindi la maggior parte già dei casi è coperta da questa circostanza. L'altra circostanza, che è minoritaria ma che sicuramente sussiste, è perché è vero, è spiacevole che sia così, ma è... Di solito non si va a guardare del proprio giardino, per cui i magistrati o comunque fanno anche difficoltà, ecco, diciamo così, a perseguire delle situazioni, ma non solo perché non lo vogliono fare, magari lo vorrebbero anche fare, ma fanno fatica anche a trovare delle situazioni. Bene, grazie, però... abbiamo la borsa, torniamo subito. Eccoci, 800240024, Tiziana da Roma, buonasera. Tiziani, buonasera Parenzo. Buonasera Tiziana. Traffico. Senta, io volevo esprimere due pensieri. La prima volta che intervengo, uno è per gli anti-berlusconiani, no? Che attribuiscono tutta una serie di fallimenti a Berlusconi, che secondo me non è così. E quindi penso che seppure andasse via Berlusconi, secondo me interverrebbe tutta una serie di politica, che inizierebbe a parlare di tagli di qua, tagli di là, per fare questo, fare quello, e quindi non è che poi alla fine si andrebbe meglio, perché tutti questi fallimenti non sono secondo me da attribuire, insomma, a Silvio Berlusconi. E poi volevo dire anche un altro mio pensiero riguardo alle manifestazioni fatte dalle donne per la mercificazione corpo delle donne. Beh, sì, io penso che vada vista, solo vada riconosciuta anche la parte che la donna ha in questa cosa, perché io penso che si possa essere in difficoltà nella vita, anche economiche, ma è una scelta, cioè prostituirsi anche. Perché in alcuni casi è così, certamente. È questo che io pensavo, insomma, perché ultimamente si parla, ecco, prima si diceva queste ragazze che sono in questa... Ma sa, c'è una grande discussione in questi giorni, anche nei media, non solo, sulla prostituzione, oppure sono prostitute, escort o mantenute. È una discussione avviata, per esempio, dal nostro caro amico Vittorio. Ciao, come stai? Eccolo. Allora, dove ti trovi? Dove ti trovi? Sono a casa di Luigino Rossi, grande industriale veneziano. Ho appena parlato con il Premier, per cui posso darvi delle novità. Insomma. Che novità ci puoi dare? Ottimo! Tranquillo, adesso cercheremo di dimostrare quello che dicevo oggi in televisione, che è un dato oggettivo. Cioè? Il tema della prostituzione non esiste, ma neanche quello delle mantenute. In questo caso è evidente. Come, non l'hai detto tu che sono mantenute? No, quella è una decisione, ma non è applicabile. Il caso di fattispecie è un altro, io l'ho conosciute più o meno tutte. Sì. Sono ragazze che sono andate in televisione le quali hanno cercato e cercano di avere il successo e vanno alla pupa in secchione. Una di queste l'ha addirittura vinto. È sì. Esattamente come Vladimir Luxuria, che è stata una prostituta e nessuno si permette di rifacciarle questa cosa. Nel caso di Francesca Cipriani, che ha vinto sì. la pupa in secchione, è una donna che è pagata nella trasmissione da Berlusconi, cioè da Mediaset, e che va a trovare il padrone della televisione. È come Sofia Loren con Ponti, è come una qualunque persona che vada a trovare il proprietario delle televisioni per cui lavora. Dunque, la stessa Maristella no. Polanco, io sì. l'ho vista dopo il secchione, è arrivata, è stata pagata dalla televisione. Sì. Ma non è più editore, Vittorio non fa più l'editore, fosse così nulla question. La Mediaset è sua! Cosa c'entra questo? Viene a discutere un altro ruolo, professore, oggi! Cosa stai dicendo? No, cosa stai dicendo? Che se ragazza vede nulla questo! Vede in lui il produttore, vede lui la televisione! Non dire scemenze! No, no, sta dicendo, scusami Vittorio, sta dicendo Parenzo che forse Berlusconi dovrebbe... Allora questo è formalismo e cavillo! Le ragazze vedono in lui la televisione, il padrone, punto! Come lui io, non è io quando vado a Mediaset penso a Berlusconi, non fatto la ragazza e neanche la puttana. Scusa, ma questi bonifici... Ma da Confalonieri, non da Berlusconi! Che riguarda la componente mantenuta, ecco, appunto. Cioè, tu dici donne, c'è una componente... C'è una stipendiate sì. attraverso la televisione. Cioè, io vado in televisione sì. e ho un contratto da 50.000 euro sì. e vengo pagato. Poi vado dal padrone della televisione che mi fa anche un regalo. Sì. Benissimo! Non vedo cosa c'è di strano. No, ma voglio dire, secondo te... Ma se non fate lo spiritoso, Parenzo, non è più il proprietario, è il maggiore azionista, e quindi è un simbolo. Beh, non c'è dubbio, Parenzo, non c'è dubbio che le ragazze vanno a casa di Berlusconi. Non perché Berlusconi, io ne ho viste decine, e ne vedo decine, che mi chiedono di portarle da Berlusconi per conoscerlo, nella speranza che lui trovi loro la strada della televisione. È intuitivo, non complicate le cose semplici. No, ma infatti... La cosa grave è questa, che se Parenzo o io... siamo stati con Rubi, sì. io ho detto oggi sono stato con Rubi, ecco, sì. io non sono indagato, io no invece. Indagami, indagatemi, poi vedrete che beh, non c'è la dazione di denaro innanzitutto, non c'è neanche nel suo caso, la dazione di denaro è il forse, infatti, secco no. di una prestazione, sì. se io ti faccio un regalo o ti do una casa, non è una dazione di denaro per una prestazione, è un rapporto come quello che ha la moglie, che chiede 3 milioni e mezzo al mese per essere stata sposata con lui. Ora potrò dare a una concubina, è la legge quello, Vittorio, è la legge. 100.000 euro sono cazzi miei se ce li ho. Scusa un attimo, Vittorio. Deve essere rispettata questa mia decisione. Quando la Costituzione sei... è una cosa diversa. Quando sei andato, io su questo, guarda, sulle prostitute e sulle mantenute. No, devo... non so, sentite le fesserie. Queste vogliono andare perché sì. è generoso, perché è ricco, sì. perché è potente. Perché andavano con De Michelis le ragazze. Allora, non facciamo gli spiritosi. Cioè, in che senso dici con De Michelis? Ha fatto un crimine. Non ha incriminato tutti quelli che sono andati con questa ragazza pagandola e sono reperibili nelle intercettazioni attraverso i tabulati. È evidentissimo. A un certo punto lei dice andiamo da quello, porteremo a casa 5.000 euro. E non è Berlusconi, è un altro. Lo vado a cercare. No, però scusa. Perché Vittorio confonde i piani? La signora Minetti è indagata per induzione alla prostituzione. Berlusconi, se non ci fosse il caso di Rubi, potrebbe andare con tutte le donne che vuole anche pagarle, perché non è un reato pagare una prostituta, d'accordo? Questo è il punto. Perché confonde i piani? Non ci sono prostitute, le conosco perfettamente, sei peggio tu. La vincitrice del Grande Fratello, della pupa e il secchione, che si chiama Cipriani, è meglio di te, sei più puttana tu. No, ma guarda, dubbio, ma questo va benissimo. No, ma ha ragione. Su questo ha ragione. Non sono i maschi, non sono puttane anche i maschi. Allora, su questo devo dire la verità, Vintero, ha ragione Sgarbi. Su questo ha ragione Sgarbi. Io non capisco perché da giorni si dà della prostituta, della puttana a delle persone. Certo. No, per come? Ma certo. Perché ma certo? Ma non c'è mica il tesserino. La sezione che si chiama Cipriani è un'attrice comica. Ma va benissimo. Hai fatto una puttana. C'è Rubi, ma Rubi cos'è per te? Rubi secondo te? Rubi è una ragazza, come dice Ostellino, che ha pensato furbescamente di trarre vantaggio dalla sua bellezza, farà sì. quello che vuole, ma se ha trovato non un cliente, ma uno che la mantiene, che lei ha chiamato la Caritas, sì. non è una puttana, è una furba. come tutte le donne che sposano uomini ricchi, sì, o che trovano qualcuno. La Gregor Aci che cos'è? Sta con Briatore perché è bello? No, beh, insomma, adesso questo... No, stava con Ponti perché era bello? Scusate, ma quando sei stato tu con Rubi, per curiosità, siccome hai detto questa cosa oggi, stamattina... Io sono con Rubi 4 giorni fa. Come 4 giorni fa? Ma è fidanzata, scusa Rubi, 4 giorni fa. Cioè, tu sei, hai avuto un rapporto sessuale con Rubi 4 giorni fa? Ho detto, sono stato, però ti importa a te, vuoi andare a vedere quello che faccio? E beh, se io... Le ho letto le poesie di Parenzo Giovane, che erano molto interessanti, quando Parenzo dice piripi, piripi, piripi, sono qua, chi lo vuole lo piglia. No, Parenzo Giovane. No, beh, adesso. Non ho capito cosa hai fatto. Lei, hai letto le poesie di Bondi? Non ho capito cosa hai fatto. Parenzo Giovane, e posso dire di più: sono stato pagato da lei. Mi ha pagato. Questo è verosimile. Mi ha pagato l'albergo. Tutto questo, e questi saranno cazzi nostri? No, beh, quando tu. Ma infatti, ma nessuno discute di questo. In un albergo da 500 euro è una puttana? No, ma chi l'ha detto? Moralisti e preti, che non siete peggio che preti. No, ma lui, lo deve dire a lui, io non sono affatto moralista e prete. Ma io, guarda, sono cresciuto... Ma che vuol dire negare che le donne siano con un uomo perché è ricco, perché è potente, perché ha una bella automobile, perché ha una bella casa, perché ha una bella casa. Questa è la regola di un mondo dove le persone possono pensare di trarre qualche beneficio dalla ricchezza di un altro. Fine. Senti una cosa, ma questo... Scusami Giuseppe, perché qui se no si crea l'equivoco. Io sono cresciuto alla scuola del grande Tinto Brass, il quale maestro diceva: nessuno, quando i calciatori vendono le gambe, le prostitute vendono la mona, è un virgolettato. E allora... io credo a questo, è vero, è giusto, è sacrosanto. E allora? Ma non parliamo di questo, perché spostate il piano? Parlate di prostituzione, parlate di pagare, ma che ne piace? No, parliamo di un reato che è contestato dalla signora Minetti, che si chiama induzione alla prostituzione. Ma scusa, se secondo Sgarbi non esistono le prostitute, non esiste nemmeno l'induzione alla prostituzione, abbi pazienza. Non c'è niente. Allora, è una ragazza privilegiata che ha incontrato Berlusconi, che l'ha fatta diventare consigliere regionale, e che siccome era una ragazza attraente e a lui piaceva e lei stava con lui, gli ha fatto un po' di giochetti, magari anche lesbici. Entriamo nel tema lesbico. Entriamo. Uno che sta con un'altra donna, cos'è allora? Scusa un attimo, ma stiamo parlando, però... probabilmente guardava due ragazze che si baciavano. Scusa, io però e no. I preti pedofili che fanno la morale dove stanno? No, per carità, ma su questo nulla questo, però non so, infatti mi pare che è un argomento di cui parliamo da... Io vi chiedo, l'unico tema vero è questo: perché non sono indagati i clienti di Rubi, che non si chiamano... Perché non commettono reati i clienti perché di Rubi? Reati, ma nemmeno io. Berlusconi li commette. Il reato è aver pagato una minorenne. Sì, questo è vero. Se i clienti di Rubi può... vale per il povero Berlusconi, sì. Vale per qualunque persona che c'è ed è dimostrata in quelle intercettazioni. Basta andare avanti e non fare come la Boccassini, che si ferma all'unico obiettivo che le interessa. Vada a cercare gli altri, venga a indagare me. Senta, ma indagare me. Vittorio, scusi un attimo, ma quello che ho fatto. Scusa Vittorio, ma la storia che ha pubblicato il giornale sulla Boccassini, devo dire, ammettilo anche tu, è un po' assurda. L'82 volevo dirti della sua concussione. Suo figlio fu portato in questura per avere picchiato una persona a Ischia, e lei chiamò per dire: mio figlio non ha fatto niente. Concussione, questo è un dato che non si ricordano mai, ma c'è anche questo a Ischia. Però ma questo qua è stato chiarito anche da tu. La concussione non c'è, non esiste neanche quella. C'è una telefonata in cui uno si chiede una cosa cercando di ottenere un favore. Siccome nel mondo tutti chiamiamo qualcuno per ottenere un favore, il favore si chiama favore, non concussione. Parole di merda. No, ma dico, nell'82 non ha avuto alcun vantaggio. Che vantaggio ha avuto? Nell'82 la Boccassini fu accusata di quella cosa là, è una cosa ridicola. Perché il giornale ha pubblicato quella roba lì? È uno sbaglio, un errore, no? Cioè, no. Non so cosa abbia pubblicato, sai. Ma come no? Ci scrivi, lo sai, no? Ma non l'ho letto l'articolo di oggi. Nei giorni scorsi, quello sulla 2 giorni fa, sulla Boccassini nell'82, che avrebbe frequentava un giornalista di Lotta Continua. Il problema è che il giornale cerca di dimostrare che in materia sessuale è meglio non mettersi in mezzo. Una indagine di questo genere è un'indagine medievale e schifosa. Se la Rubi dice che non c'è stata e Berlusconi che non c'è stato, quella è la verità. Se tu vai a letto con la moglie di Parenzo, Ah, letto con la moglie, ma perché a casa mia? E lei dice di no. Lui è corduto, tranquillo. Ma gli tiro poi in faccia, la carità. No, dire no, è la verità. Come sei medievale, Parenzo, un pugno in faccia. Vedi, Vittorio, non è, vabbè, non è aperto. Non piace a nessuno, scusa. Tradizionale, non è aperto, non è aperto come noi. Ma no, ma non è questione di aperto, è questione che essere un cornuto non piace a nessuno. Ma vabbè, ho capito, abbi pazienza. Ma non essere cornuto, basta che tu che dica di no a quello che è stato con tua moglie. La verità è quella, basta. Scusate, ma mia moglie ha detto, che stai dicendo? Scusate, ma però Vito, tu oggi hai detto che tu sei stato con Ruby, smentisci questa cosa? Allora era una buttata, no, io ho detto che sono stato con Ruby e voglio essere indagato, non è che lo devo dire, io non parlo con la stampa, io voglio parlare con la Bocchessini, che mi chiami e glielo spiego. Ma quando sei, allora, sei stato quando era minorenne? No, sono stato 4 giorni fa. Ma ho capito, ma allora è maggiorenne, nulla. Non c'è nessun reato, non c'è niente. Non è un fatto che riguarda la Bocchessini, perché se lei ha detto che non è stata con Berlusconi, non è stata con Berlusconi, fine. Quando nessuno dei due, cioè, per fare una causa occorre che ci sia una vittima. Ma siccome non possiamo pensare che questa è stata raggirata, non necessariamente, ma che sapeva perfettamente quello che voleva, allora, ed era anche una piccola ricattatrice, sì, allora è evidente che se lei dice di no e lui dice di no, è no, fine, dov'è l'indagine? Si io potrebbe... ho fatto oggi l'intervista finta, allora, interrogatorio, la Bocchessini chiama Berlusconi, sai come si chiama? Cicco Berlusconi, dove è nato? 29 settembre 1936. Sì. Se lei conosce Detta Rubi, sì. È andato a letto con lei? No, punto, finito. Interrogatorio finito. Scusa, Vittorio, mi dicono che c'è... anche dimostrarti che non ci sono andato, devo tirare fuori l'uccello moscio, cioè no, quello no, per carità, no, non ci sono andato, lei dice che non c'è andata, è finita, non c'è un'altra storia, perché un conto singolare di condurre le indagini alla Sgarbi, no, ma su questa ha ragione, su questa ancora una volta, su questo ancora una volta ha ragione Sgarbi, se uno dice che non ci sono stato, l'altro dice che non ci sono stato, che cosa vuoi provare? Su, diciamo che purtroppo, ma io posso, non è che cosa, che ci sono le intercettazioni in cui un reato che viene, non c'è l'intercettazione della scopata, non c'è che parlano e dicono c'è il culo flaccido, c'è stato, non c'è stato, posso aver mentito dicendo che lei è stata con me? Sì, sì, no, certo. Dice che è stata con Berlusconi, siccome nelle intercettazioni non c'è scritto mi ha messo l'uccello non so dove, non c'è nessuna possibilità. Non c'è dubbio. Allora, però, Vittorio, scusami un attimo, adesso c'è il traffico, però è importante questa cosa qui. Ha chiamato Vladimir Luxure che vuole intervenire, perché evidentemente si è sentita colpita da quello che hai detto prima. Lei, in un'intervista che lei conosce bene, al Corriere della Sera, appena letta, ha detto, ho conosciuto tante persone perché ho fatto la prostituta e la cosa è stata una grande esperienza di vita e non la rinnego. Perché infatti, siccome io non ho niente contro le prostitute, quella parte l'ho vista anch'io su un marciapiede, posso testimoniarlo, ma quella parte della sua vita non inquina la qualità del suo intelletto. Adesso vuole intervenire e parlare con te, un attimo solo. Eccoci, allora, Vladimir, ciao, buonasera, Vladimir Luxuria, come stai? Buonasera, bene, grazie. Allora, chiaritevi un po', Vittorio, che dicevi tu? Ma non dicevo niente, dicevo quello che ha detto tutta la vita lei, che lei abbia fatto la prostituta su una strada dove io stesso l'ho vista, è una cosa che ha dichiarato senza vergogna, come Moll Flender, se non c'è niente da vergognarsi e non si può rimproverare a una donna di fare quello che vuole del suo corpo. Quindi questo è il concetto che non credo possa essere rinnegato da nessuno. Vladimir. Se uno decida di fare un'altra cosa, benissimo, che poi decida di fare dalla prostituta alla mantenuta, se vuole farlo, benissimo, in ogni caso queste ragazze non sono prostitute, sono ragazze che hanno cercato il successo in televisione e che come Vladimir è diventata vincitrice del villaggio dei famosi, come si chiamava, dell'isola dei famosi, la famosa Cipriani è diventata la vincitrice della Pupa e Secchione, e non vedo perché quella debba essere una prostituta perché è andata in televisione, cioè non capisco, non riesco a capire la mancanza di rispetto per una donna che decide di fare quello che vuole del suo corpo. Vladimir? Allora, non è uno scoop. Io quando mi candidai nel 2006 avevo dichiarato che in un periodo molto lontano della mia vita e anche per un brevissimo periodo, in difficoltà economiche, in un periodo difficile della mia vita, non lo nego, mi sono prostituita. Non è uno scoop, l'ho dichiarato in un'intervista all'Espresso. Quindi sì, certo. Non rinnego assolutamente questo e non me ne vergogno. Sono una persona che crede assolutamente nelle libertà delle persone, la prostituzione non è un reato, se la magistratura confermerà, ci sarà dopo tutto il terzo grado reati veri come quello della prostituzione minorile o come quello dell'induzione alla prostituzione, allora quelli sì che saranno reati, cioè, così come per me non è un reato l'adulterio. È come il fatto che queste persone siano state definite, perché Vittorio contesta questo, in tutte queste settimane escort, prostitute, dà fastidio anche a te? Sì, oppure no, ho capito, allora io dico questo, che non considero neanche l'adulterio un reato, perché dove è reato spesso in nazioni teocratiche viene punita soprattutto la donna, adultera spesso con la lapidazione. Un uomo che va con le prostitute, uomini, donne o transessuali, dovrebbe rendere conto a se stesso, alla moglie se ce l'ha o alla fidanzata se ce l'ha, non certo alla opinione pubblica, certo, secondo me. Quello che dico però, che attenzione, per me e anche per come viene definita nella legge Merlin, prostituzione non significa soltanto andare con un uomo o con una donna in cambio di denaro. Prostitute sono anche coloro che vanno con qualcuno in cambio di favori, cioè in cambio di un corrispettivo che magari non si valuta in contanti o con un assegno o con un bonifico, ma che potrebbe essere appunto un favore. Ma guarda, promessa. Che Vittorio contesta questo in realtà, il fatto che persone che chiedono un favore o che ottengono dei favori possono essere definite prostitute in senso giuridico, cioè e dunque da questo si innesta una indagine, eccetera, eccetera. Questa è la contestazione. Cioè, secondo me, se una persona non va con un uomo o con una donna perché attratta fisicamente, emotivamente, ma perché in cambio ha qualcos'altro, ragazzi, come la vogliamo chiamare? Gran parte delle mogli di uomini ricchi sono troie. Però dico, questo lo sapevamo già, ma non è la prostituzione intesa come un servizio secco, cioè la prostituzione è fatta così, di una persona che paga un servizio e non vede più quella che gliel'ha dato e non ne conosce più. Beh, non sempre. Scusami. È il rapporto di strada. Quando una viene a casa tua, ha il tuo telefono, vive vicino a te, ti parla, allora quel tipo di rapporto può essere di interesse come quello di qualunque donna che sposa un uomo ricco, e di questo stiamo parlando. Ma non è cosa, essere mantenute. Le mantenute in Italia sono il 70% delle donne che non lavorano e che hanno un marito che le mantiene. Ma è diverso, ma è radicalmente diverso. Ma non è diverso, perché queste di Berlusconi sono come sua moglie, donne lo vedono 20 volte, vanno a casa sua, gli chiedono favori, lui gli trova la casa, non sono prostitute, sono mantenute. Ma fermati solo un secondo, fermati. Montanelli, è vero, due amanti. Scusami. Come Montanelli che c'aveva, scusa? Montanelli aveva una moglie e un amante, da sempre, niente di male. Ma se li pagava con soldi suoi. Beh, anche Berlusconi paga con soldi suoi. No, scusa, fermati, è un'altra questione che stiamo cercando di porre. Una con che soldi politica. Li paga, scusa? Cioè, se, ecco, fammi spiegare bene, se è vero quello che addebitano alla consigliera regionale Minetti, sì, e cioè quello che lei dice dell'intercettazione, mi ha messo lì e mi paga con soldi dello Stato, così mi ha tolto dai coglioni. Ma quello è un altro discorso, dai. Questo su, è un problema politico, non morale. Fini l'ha messo lì Forlani, Fini l'ha messo lì Almirante. È la stessa cosa, Fini è una prostituta della politica, allora, ma perché l'ha messo lì Almirante, cosa stai dicendo? Scusa, Vittorio, però tu non ti arrabbi un po' per il fatto che Berlusconi, invece di mettere al consiglio regionale uno che ce lo frega, non ha messo a me, non me ne importa nulla, appunto, dicendo che il sistema è lo stesso, per cui un politico ha uno che protegge e lo fa eleggere al posto della Minetti. Sapete chi c'era nella lista bloccata alle regionali della volta precedente? C'era Rotondi. Rotondi perché era l'amico di Formigoni. Però Rotondi, allora, dal punto di vista sta dicendo una cosa interessante, Rotondi è l'amico di Formigoni, questo è interessante. Cioè, cosa era senza Almirante? No, ho capito, però insomma, non potrei paragonare dal punto di vista politico Rotondi alla Minetti. Scusa, Vittorio. Il problema è che se tu dici che una è messa lì soltanto perché sta con Berlusconi, si sta a leccare il culo a un politico o a un barone universitario e ottiene una cattedra o un posto in Parlamento, è nella stessa condizione. Ma è pazzesco, se riguarda il pubblico, se riguarda il privato non me ne frega niente, delle sue aziende, può mettere chi gli va. È normale che in Parlamento riguarda il pubblico. Vladimir, che volevi dire? Invece a me che mi ha fatto molto riflettere, invece, cos'è? Sempre accertando le intercettazioni, che insomma la stessa persona che ha detto appunto meglio guardare le donne che essere gay, come battuta, sì, come figurino, non ci ricamo sopra, poi se è vero quello che è vero, cioè che una persona che magari non so ha deciso di pagare, e ovviamente qui non c'è reato, due donne che hanno simulato una relazione lesbica, sì, allora mi chiedo perché pagare due donne che fanno finta di essere lesbiche invece di interessarsi delle tante lesbiche vere che magari convivono insieme da 40 anni e vorrebbero essere riconosciute nella loro affettività e nei loro diritti civili. Mi chiedo questo, ecco. Va bene, dobbiamo chiudere. Ciao Vittorio, a presto. Vladimir. Finalmente quel parente rincoglionito completamente. Ormai è diventato un moralista. Salutami Luigino Rossi, sì, che è stato mio editore in Veneto. Te lo passo. No, ciao. Parenzo che è diventato come nome di Pietro. Dottor Rossi, dottor Rossi, ci sentiamo presto, salutatevi velocemente. Arrivederci editore, grande Luigino Rossi, che avrai delle scarpe, è un museo della scarpa che intanto, stava assistendo a tutto questo, stava sentendo Vittorio Scatenato su questo. No, ma Luigino Rossi ha il museo della, ha un museo della scarpa sulla riviera del Brenta, che è meraviglioso. È vero, è vero. La chiamiamo presto, Luigino Rossi, la chiamiamo presto, grazie. Vladimir, ecco, va bene, Vladimir, la prossima settimana siamo a Roma, vienici a trovare in redazione, ciao. Molto volentieri, grazie. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupare.